Ma io ce l'ho fatta prima di lui, me l'ha capito. Silenzio la vecchia! Si abbassa! La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Caro Davide, abbiamo qui un professor Mannheimer di fare una figuraccia, di dire qualche cosa di inappropriato, di dire qualche cosa che non lo farà mai più andare in televisione. Sì. A porta del signor Vespa. L'abbiamo rapita dagli studi del signor Vespa. Aspetta un attimo. Aspetta. Intanto Grillo chiede l'impeachment di Napolitano, la messa in stato d'accusa, una follia totale, semplicemente perché Napolitano è il grande kingmaker del governo di Larghe Intese. Sentiamo. Noi abbiamo già dato con i nostri avvocati, abbiamo già dato con il nostro studio legale l'incarico di chiedere l'impeachment del presidente Napolitano, che non può assolutamente passare. Ma è una cosa sconcertante, ma è una cosa sconcertante. Vabbè, ma non è la solita cosa. Poi dice questo 88enne, non è che lui sia giovanissimo poi in realtà, cioè, i suoi guru, il professor Becchi, quanti anni ha il suo guru? Avrà 70 anni. No, no, un po' meno, ma sentiamo ancora Grillo, dai. Questo Napolitano qua, bisogna che la finisca, bisogna che la smetta. Noi chiediamo l'impeachment, ma sul serio. Noi andremo lì sotto di lui, perché deve smetterla questo 88enne. E tiene in scacco tutta l'Italia di notte, chiama di notte, ma pensa a te, in una democrazia chiama di notte e l'opposizione non la chiama, non chiama nessuno, non lo dicevano neanche, l'hanno saputo nei corridoi per caso. Poi dice gli diamo fastidio perché non prendiamo i soldi. Qui fanno bene però, perché non hanno preso i soldi, i nostri soldi, quelli che sono qui e che diamo ai partiti. L'unica cosa buona, una delle poche cose buone che hanno fatto i signori del 5 Stelle da quando sono in Parlamento è di non prendere i quattrini. I radicali lo facevano già 20 anni fa. Ma che fa, i radicali prendono un sacco di soldi pubblici, la radio e altre cose ancora, un sacco di soldi pubblici, mai rifiutati i soldi pubblici, mai, mai. Perché il fatto che noi non prendiamo soldi, abbiamo rifiutato 42 milioni di euro, li fa andare in bestia, devono dimostrare che noi rubiamo, che siamo peggio degli altri, perché non accettano persone che possono fare politica per passione e non per i soldi, non ce la fanno nel loro DNA. Eccoci qui, la zanzara, 800 24 00 24, in diretta questa sera dal centro di Milano, schifosamente o meravigliosamente sponsorizzati dalla Toyota, bisogna dirlo, meravigliosamente o schifosamente, a seconda dei gusti. Vabbè, comunque andiamo con che cosa, Davide? Professor Mannheimer, ma è momificato, è vivo Mannheimer? No, Mannheimer. Sono terrorizzato. Adesso la facciamo svegliare noi, regia di Milano, mi mandate quella musichetta lì, quella sigla che me lo fa risvegliare, perché sono qui a raccontare... Ah! Con noi il professor Renato Mannheimer, professore, io mi commuovo quando la sento. E credo tutti i soldi che le do. No, pochissimi, ma no, ma che pochissimi? Quanti soldi ha preso la Vespa in tutta la vita, professore? Ma pochissimi. Ma come pochissimi? Ma certo. Cioè, quanto contribuisce al suo reddito il monte reddito? Molto poco. Nella torta di Mannheimer. Molto, quanto? Un decimo, quanto? Ma meno, ma molto poco, perché la Rai paga pochissimo. Però cioè, lei si sta lamentando che la Rai paga poco? Beh, se voi gli date una parolina, un momentino che non me lo danno, non abbiamo tanti molto anni, noi abbiamo fatto già i nostri, cioè, quanto danni, prende a puntata a sondaggio? Questo non lo so. Ma come non lo sa, professore? Francamente, davvero non lo so. Credo che sia meno del costo che abbiamo per fare il perché però lei ci perde. Noi facciamo, è possibile che noi lei perde facendo perdere, forse no, perché è contro la mia religione. Però la nostra, però pure lei è ebreo, professore. Sì, io sì. Pure lei è ebreo. Sì, è circondato, stavolta siamo in maggioranza. Ma che lei c'ha la lobby ebraica. No, aspetta, aspetta, che le faccio sentire l'ultima uscita da noi, ovviamente fatta dal professor Battimo. Il professor Battimo che sì. oggi è un po' nei guai, perché ha detto che non vuole lo Stato di Israele, razzista e confessionale. Ma da voi tutti dicono le cose, io sono terrorista, chissà cosa mi farete dire. No, lei ha già detto, lei è quello che ha già detto già. Su che da Vespa non prende un euro. Esatto. Però no, mi deve dire a puntata, faccia una telefonata adesso e dica quanto prende a puntata da Vespa, bisogna saperlo. No, soldi pubblici, sono soldi pubblici, professor sì. Mannheimer, sono soldi pubblici. Il contratto credo che sia pubblico. Quanto? Quant'è? Ma quanto prende? So, 2000 euro? 2000 euro si occupa di queste cose di euro, sì, non qualche però, migliaio, cioè poca roba, dice poco, pochissimo. Beh, lei sta piangendo pochissimo. Miseria, professor Mannheimer. Il Maradona dei sondaggisti, e non a caso, poi diremo perché. Un attimo che sentiamo chi è, Battimo. Non voglio che ci sia uno Stato confessionale razzista come Israele. È certo che è razzista, alla faccia. Prendetevi, guardate i diritti degli israeliani non ebrei. È una cosa schifosa, professor Mannheimer, diciamo la verità, una cosa schifosa. E lo chiamano professore. No, Battimo, per carità, può dire tutto quello che vuole, per me non deve essere incriminato di nulla, c'è una rivolta della comunità ebraica contro queste parole. Ma però che rivolta, il fatto che Battimo odi Israele, professor Battimo, europarlamentare dell'Italia dei Valori, odi Israele, insomma, non è che sia cioè, una novità, diciamo. Poi ha detto che non vuole Israele, Israele deve sparire, eccetera, eccetera. Vabbè, dove andiamo? Andiamo a sentire Renzi, va. Renzi che ha detto questa mattina da Milan, ha detto che la Bindi deve rinunciare all'indennità, cioè può rimanere, perché lui decide anche se uno può rimanere o no presidente della Commissione Antimafia, ma deve rinunciare all'indennità, che è una follia, perché o la Commissione Antimafia va chiusa, e secondo me va chiusa così con la Clerp che non produce un cazzo, oppure, e non serve a nulla, oppure quella prende l'indennità, perché ci avrà i segretari, i consulenti, cioè, o esiste o non esiste. Renzi. Ma se fossi la Bindi darei un segnale. Rinunci all'indennità di presidente, che sono, mi pare, 3.000 euro. Lo hanno fatto altri presidenti di commissione, l'ha fatto Relacci, sì. l'ha fatto Marcucci. Uno. Due, rinunci alle prerogative di collaboratori, staff e dintorni che hanno queste commissioni, che è un altro problema. Ma si dimettono o no? Ma si no, no, no, no, rimanga presidente, si rinuncia a questi 3.000 euro. E poi, se le posso permettere, se lei è stata eletta alle primarie a Reggio Calabria, apra un ufficio a Reggio Calabria e ci vado una volta. Saranno pure cazzi della Bindi se deve aprire o no un ufficio a Reggio Calabria. Ma sto Renzi vuole comandare tutto, pure se uno deve rinunciare all'indennità di presidente della commissione Antimafia, allora dica che bisogna chiuderla quella commissione. Vabbè, Brunetta, se la prende con Brunetta ovviamente, sentiamo su Brunetta, dai. Le dichiarazioni di Brunetta sono incommentabili e inaccettabili. La parola guerriglia la dovrebbe mettere in un cassetto e non chiudere la chiave. Dopodiché io so che ci sono tante polemiche sulla vicenda di Rosy Bindi, e come dire, se c'è uno in passato, appunto, presente, e immagino in futuro che ha avuto qualche discussione con la Bindi, Vabbè, anche Brunetta si è lamentato anche con lei, professor Mannheimer, che si lamenta con tutti, ha visto, no? Sta facendo il male. Che gli ha fatto Mannheimer? Si è lamentato anche con lei? No, come mai? Non ricordo, anzi, io feci per lui anni fa qualche sondaggio con grande soddisfazione. Ah, personalmente per Brunetta? No, per esempio per i ministeri, perché io non pagano personalmente lì, per nessuno. Li pagano, Adesso non pagano più perché ma non ma lei anche lui mi sembra scannato, piange miseria, professore. No, senta, ma allora, visto che lei è il principe per me, il Maradona dei sondaggisti, mi può dire quanto vale oggi il marchio Forza Italia? No, perché sa che oggi Alfano non si è presentato a questa riunione. Alfano può valere molto, in teoria. Sì. Dipende da che cosa. Alfano adesso, se uno fa il sondaggio sulla popolarità, è, dopo Renzi e Letta, il terzo è popolarissimo. C'è più di Berlusconi? 45... Molto. Veramente? Molto più di Berlusconi. Molto. Non è vero. Cioè, elettoralmente vale più di Pupù. Più di Dudù, lì, il cane. Adesso... dal punto di vista della popolarità, cioè se chiedi alla gente quanto ti piace, Alfano piace a tanti, al 45%, Berlusconi sul solito 22%. Ma veramente? Però questo 22% Berlusconi ce l'ha sempre. Ma è vero? No, è vero, Alfano piace, però dipende molto da quello che dirà. Sì, mi sono scannato. Sta scannato come un pazzo. Uno si immagina il grande Mannheimer, dipende da quello di carta. Scrive sondaggi sui pezzi della carta igienica la prossima certo, volta, perché prima mi avete fatto telefonare in ufficio per avere questi dati, mi avete dato questo e io meno svegli. Un applauso per Mannheimer. Mannheimer. Allora, c'è anche una grande popolarità potenziale. Sì. Noi abbiamo trovato, noi abbiamo chiesto, ma se questi colombe andassero via e facessero un loro partito, lei potrebbe prendere in considerazione il voto e così via, e abbiamo trovato un voto superiore a quello dei voti attuali per il PDL, però addirittura ma sì, però no, signori, potenziale è una cosa, come la vita sempre, poi dal pensare al fare, cioè ci sta passa, dicendo che capisci? I sondaggi non contano quasi nulla, no, in realtà. Un po' come la Sibilla Cumana. I sondaggi non misurano i comportamenti, i sondaggi misurano le intenzioni e gli atteggiamenti, anche questo speriamo, le intenzioni e gli atteggiamenti e a cercare in questo modo di fare la campagna elettorale. È un po' come la pizza. Quindi, lei si ricorda la pizza, no? Sì, quando andavano lì dalla pizza e quella diceva no, perché lei sapeva il futuro e lei invece non sa un cazzo il futuro, no. Mai. Però scusi professore, lei è il Maradona dei sondaggisti, si può dire questo? Il Maradona dei sondaggisti, dipende da che punto di considerato vista, considerato, perché la istituzionale porta a porta, Vespa, anche se lei ancora mi deve dire ogni volta che va porta a porta quanto guadagna, perché sono soldi pubblici, bisogna anche sapere, la gente lo deve sapere, no? Io adesso in questo 5.000 quanto, 3.000, 4.000, tra i 3 e i 5.000, non ma guadagno così poco, ma questo meno di noi, guadagno, noi abbiamo fatto una puntata, ci hanno pagato un sacco di soldi, no, beh adesso infatti, questo in televisione la RAI non però ha, era privati, la era RAI privati. La RAI non ha così tanti soldi, sì, e ne paga pochi, a noi servono per rimborsare la esecuzione del sondaggio. Ah, c'è andata a pari. Poi, andate poi a pari. Praticamente sì, però è una soddisfazione, è un piacere. Cioè, beh, credo. Grazie a Vespa, lei ha guadagnato anche un sacco di soldi, visibilità, cose. Cioè. Visibilità, fin troppa. Scusi, Maradona dei sondaggi. Non le conviene forse fare sondaggi per la Zanzara, insomma, questo sta dicendoci. I sondaggi per la Zanzara, benissimo, ci mettiamo, sì. parliamone. Però scusi, cioè, non le dà quell'autorevolezza, diciamo, che le dà. No. Lo diciamo io. Però professore, diciamo una cosa, che lei è il Maradona dei sondaggi, lei sa che recentemente Maradona ha fatto tie a Equitalia, no? Sì. Giusto, lo sa, l'ha monitorata questa cosa, è popolare questa roba, sì. No. Come no? No, è stato molto condannato e redarguito dalla gente. Sì. Non riscuote, come dire, un idem, un idem sentire. Al contrario. Pure lei qualche problemino col fisco ce l'ha? Io ho avuto... 5 millions le contestano. No, non mi hanno contestato per l'ora nulla, ci sono in corso degli accertamenti. Però lei io sono regolare. Fiducioso sì. che gli accertamenti produrranno delle cose ragionevoli e sono tutti. Pronto ad affrontare quello che daranno. Però la cosa bella è che lei dice Maradona sbaglia. No, non solo. Beh, vedete, questo è molto interessante in Italia. Una bello, volta, bravo, una volta 30 anni fa, chi evadeva le tasse veniva quasi ammirato in Italia. Cioè, veniva ammirato. Tu andavi al bar e dicevi, io ho trovato un trucco. Oh, bravo, anch'io. Adesso è il contrario. Adesso però, professore, c'è sa anche se verrà trovato qualcosa su di lei, per questo che sta dicendo lei, se la mangeranno viva. Perché mi mangeranno viva? Beh, se le contesteranno anche solo 100.000 euro, e lei è un evasore fiscale per 100.000 euro. Lui lo diranno e io restituirò tutti e 100.000 euro più gli interessi. Se lei viene, facciamo un'ipotesi, io non è che la voglio male, l'abbraccio fortissimo, prego. Però se lei dovesse avere qualche problema da questo punto di vista, essere condannato dal fisco, porta a porta non ci può più andare, però a quel punto. Temo che questo lo vedranno quelli di porta a porta. No. Quello che è certo è che io, se per caso trovano che la mia società, non io, il cui amministratore era un altro, avesse sottratto delle cose, voglio che tutto sia assolutamente restituito. Bravo. Con interessi. E in ogni eccetera. Caso lei difficilmente potrà andare sulla televisione pubblica. Speriamo che mi ci mandino lo stesso. Dico. Beh, mi pare molto difficile, però. Vediamo. Hanno contestato Maradona perché ha fatto così. No, perché è andato là la televisione pubblica, è difficile che lei non ho fatto così, io sto facendo il contrario, io sto dicendo vuole restituire che i soldi se dovesse essere in ogni caso, cioè il contrario, il mio se hanno fatto degli errori vanno pagati. Giuro, è tutto il pomeriggio che qui il signor Parenzo mi fa una testa così con questa storia dei rom, io non ne posso più, certo, perché ieri ha paragonato indegnamente i rom agli italiani, sono italiani, dicendo che rubano come rubano gli italiani, certo. È una cosa assurda. Ma questo è chiaro, ma voglio dire, ma rubano di più al Consiglio regionale del Lazio o al campo rom di via Triboniano, non voglio dire a Milano, il famoso campo, ma mi pare evidente che Consiglio regionale del Lazio hanno praticamente indagato tutti i capigruppo dei partiti perché si compravano Rolex e quant'altro, al campo di via Triboniano avranno rubato al massimo un orologino, no? Su una metropolitana, questo magari mi pare un evidente. Rolex, comunque vabbè. Ma questo mi pare evidente. Poi però mi sono interrogato e ho detto, ma che analogie ci sono ad esempio tra i rom e i leghisti? Tra i rom e i leghisti? Sì, e uno va a vedere e ad esempio capisce che entrambi dicono, i leghisti dicono non deve essere pagato l'IMU e il canone della TV. Quelli non pagano le tasse allo Stato perché non lo riconoscono, quindi sono come i leghisti. Non vogliono l'IMU e vivono nelle roulotte. Poi sono federalisti, vivono in un cazzo di campo dentro una roulotte e hanno il loro autogoverno perché hanno il capo Roma, esattamente come i leghisti. Alcuni adorano il dio Po, i leghisti, altri le musiche zigane, alcuni mettono le camicie verdi, altri mettono quei vestiti meravigliosi, sgargianti, eccetera. Alcuni mettono addirittura le corna, sei un cretino, dai. Quando andavano sul Monviso, le corna, e quelli suonano la fisarmonica nella metropolitana. Io non vedo, francamente, alcuna differenza in alcuni. Beh, aspetta, alcuni rubano i diamanti, altri ovviamente rubano altre cose. E quindi ditemi voi che differenza c'è tra il signor Belsito e un capo rom. Cioè, effettivamente vista... anche fisicamente non sono molto diversi. Ma anche da punto però di adesso vista ti faccio che... parlare con un signore che Igor Iezzi. Buonasera Iezzi, come sta? Bene, un po' meno dopo aver ascoltato le stupidate di Parenzo, segretario provinciale dei Nord di Milano. Però ecco, risponda a tono a queste imbecillità di Parenzo. Se mi fa rispondere invece di delirare, ma da quale agenzia psichiatrica è uscito? Allora, no, io le cito dei dati, perché io ho sentito la vostra trasmissione anche di ieri, dove addirittura Parenzo diceva che statisticamente gli italiani rubano come i nomadi. Allora, ma guarda che i rom sono italiani, quindi questa non dire, è una fesseria, ma è molto di più. Basta vedere i dati nelle carceri italiane, dove gli immigrati in generale in Italia sono 7-8%, nelle carceri sono il 40%, e i romani e i rumeni, lapsus, i rumeni sono il 14,8%. Vabbè, non è che tutti i rumeni sono rom, sono la seconda dopo i marocchini. Ma non è che tutti i rumeni sono rom, generalizzare così, l'ho fatto per paradosso, ovviamente per dare alcune date statistiche. Ma se Belsito ruba i diamanti, devo dire che tutti i leghisti sono ladri? No, non posso dirlo. No, se Belsito ruba i diamanti, posso dire che tutti i leghisti rubano? Non posso, sarei un cretino se lo sostenessi. No, ma infatti nessuno dice che tutti i rom rubano, ma che ce l'hanno nel sangue secondo lei? Iezzi, non ce l'hanno nel sangue, però c'è una cosa da dire, che se li facciamo, li consentiamo di vivere nei campi, è chiaro che degrado chiama degrado, ed è normale che voi li volete cacciare però dai campi, voi li volete assolutamente cacciare. Beh, assolutamente. Certo. E dove li mettiamo? Dove li mettete? Nelle case popolari no, perché dite che non sono. Nelle case popolari diritto. Direi proprio di no. E dove li mettete? Lavoro, fuori dall'Italia, come hanno fatto in Francia? Che volete fare? Qualcuno si pone il problema dell'italiano, del milanese, del siciliano senza casa dicendo questo: dove li mettiamo? Allora, che lo so, me lo dove li mettono? Fuori lavoro. Se hanno loro casa, prendono la casa e la pagano come qualsiasi persona, se no fanno le gradatorie dell'ALER, se sono residenti in maniera regolare. Ma secondo lei, scusi Iezzi, sono più sporchi i rom degli italiani? Ma conosco tanti italiani che si lavano poco, voglio dire. Ha avuto un attimo di lucidità. Faccio il razzista fino in fondo oppure no? Non ci ho pensato un attimo, c'era anche qualche italiano forse. Queste qua sono le classiche fesserie che appunto dice Parenzo. Lei ha mai visto, signor Iezzi, un rom dirigente della RAI? L'ha mai visto? Un rom dirigente della RAI? No, appunto. Quando voi siete andati al potere avete occupato la RAI, quindi meglio occupare il campo rom di Triboniano che occupare la RAI TV. Colgo la provocazione per dire che per i rom non c'è nessuna discriminazione. Mi risulta, forse sbaglio. Ma Pirlo. Bravo. Pirlo, giocatore della Juve. Che c'ha Pirlo? Di cui io sono grande appassionato. Mi sembra che sia Sinti. Straniero, è Sinti, può dirlo, è Sinti. Esatto. No. Ma è Roma, davvero? Quindi questa allora, dimostrazione che in Italia, in Padania, al nord, in Lombardia, a Milano, a Torino, in giro, non c'è nessuna discriminazione per chi vuole lavorare, per chi vuole rubare. Vabbè, adesso ha fatto l'esempio sbagliato, quello è di Brescia, di Brescia, no, signor Pirlo. Sì, ma ho capito, ma insomma, lei non è che l'esempio della non discriminazione sia il fatto che c'è Pirlo, dai. Ma no, ma per dire che... Però vorrei capire una cosa molto interessante. Lei sposerebbe mai una donna rom? Ma io sono fidanzato con una brianzola, quindi... Questo... Una brianzola, con una ragazza, sarà fidanzato con una ragazza. Cioè, se lei... No, perché qui abbiamo Mannaiver invece, vuole tanti rom, vero? Le piacciono moltissimi rom. Sì. Ma io non ho niente contro i rom, trovo ma che... Ma io sono d'accordo! Dai rom... Aspetta, che c'è professore. No, dai rom sono partiti, c'è anche una cultura rom, i rom, poi sono tutti italiani, io non ho assolutamente niente le donne rom, alcune donne rom sono bellissime. Grande estimatore di donne, il professor Mannheimer. Fin da piccolo mi sono sempre piaciute molto. Più le donne o i leghisti, professore? No, ma non c'è una relazione più le donne o i leghisti, perché così, tu fai l'alternativa stasera esco con una ragazza o con un leghista. Beh, lo escludo a priori. Abbi pazienza. Però mi dica la verità, allora, mi dica la verità. Che con le donne, le donne rom sono molto belle alcune. Io trovo che alcune, io ho visto delle donne rom, ce ne belle e brutte come tra le, vabbè, tra italiane. Però quando sono belle, dice lei, sono belle. E le ungheresi. Però ce ne sono, cioè non ho niente, assolutamente niente. Gli italiani sono un po' razzisti, professore, diceva anche dai suoi sondaggi, dal suo osservatorio. Non razzisti, però hanno degli atteggiamenti di pregiudizio piuttosto diffuso verso immigrati, rom, poi mettono tutto assieme. Brava. Questo, questo è molto comune. I tra leghisti gli italiani sono anche razzisti, secondo lei? Ma no, no, l'elettorato leghista, sì, un pochino più che razzista, è un pochettino più scettico verso i diversi, secondo i sondaggi, scettico, della media degli italiani, scettico, cioè ha degli atteggiamenti di pregiudizio maggiore, ma neanche tanto. Non è... Senta, mi risponda sì o no, Iezzi, i rom rubano i bambini o no? Però qui noi siamo, siamo terra terra, lo so, però i rom rubano i bambini o no? Perché c'è un pregiudizio diffuso lì. C'è questo problema in alcune comunità rom, sì sì, c'è. Cioè, cioè li rubano, è come dire che in Val d'Aosta uccidono i bambini perché c'era la Franzoni, no, è uguale. Ma dai, ma è come dire che in Val d'Aosta, siccome c'è la Franzoni, uccidono i bambini. Ma chi si può ragionare per luoghi comuni così? I bambini no, se la domanda è il fenomeno nelle comunità rom c'è, sì, c'è. La zanzara è quell'odioso insetto, tazza di merda, non mi fa dormire la notte perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai. Sei ancora a casa? Questa gratta, ma peggio è. Caro professor Dell'Utri, siamo ancora qui. Permesso. Se non ci cacciano, siamo ancora... Anche da qui, no? No, questo non accadrà. Però oggi è successa una cosa, che a un certo punto Alfano non si è presentato a Berlusconi. Chi? Alfano. Già sentito, sì, Alfano. Non si è presentato a Berlusconi. È la prima volta che Berlusconi chiama qualcuno, sì, diciamo, raduna delle persone e quelli non si presentano. Sì, quello sicuramente era lì perché Berlusconi era lì, a casa sua. Ingrati sono però questi. Però, devo dire la verità, è la prima volta che succede che Berlusconi convoca un ufficio e quelli non si presentano. Sembra quasi il film, te lo ricordi quel film? Di sono Moretti, Gaspi. Nanni Moretti, no? Mi si nota meglio se vado oppure se non vado. Senti, mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente. Vengo e mi metto così vicino a una finestra di profilo in controluce. Voi mi fate, Michele, vieni di là con noi, dai. Io, andate, vi raggiungo dopo. Vengo. Ci vediamo là. No, non mi va, non vengo. No. Sì. Ciao, arrivederci. Però effettivamente poi non è andato, Non è andato come Nanni Moretti. Non è andato. Allora, adesso Alfano non vuole Forza Italia, ti rendi conto? No? Cioè non vuole entrare nella Forza Italia degli estremisti, dice. Cioè Forza Italia sarebbe la Forza Italia degli estremisti, Verdini, Santanchè, questi, Fitto estremista, mi sembra difficile, no? Fitto estremista. Ma sentite, qualche tempo fa, ma non un anno fa, tre anni fa, a giugno, credo. I grandi archivi della Zanzara. Grandi archivi, qui. Come la Spectre. Audio canta. Sì. Senti, Alfano su Forza Italia qualche Chi mese questo? Fa. Sempre Grazie, Alfano. Grazie, per dimentico. Si riparte con Forza Italia ed è un qualcosa di bellissimo, vedo un grande entusiasmo. Paragonatela con la noia mortale della direzione del Partito Democratico. Lì c'è una direzione da noia mortale in cui si discute della data del congresso, delle regole, una roba da fare addormentare anche dopo 10 caffè. Siamo più e noi. E noi invece ci battiamo. Bravo. Difendendo sempre il nostro ideale e la nostra politica economica, che è quella di diminuire le tasse. Un bel mondo sotto. Però adesso va bene tutto. Però uno non può pensare che dietro queste cose ci siano degli ideali, ci siano delle. La politica, lo dice sempre lei, sangue e merda, come sono formica, lo diceva. Ci sono dei gruppi di interesse, ci sono le poltrone. Tutto cambia. No, io voglio sentire un altro Alfano, però. Perché Alfano, cioè, da questo punto di vista, questa sera lo voglio un po' martirizzare. Ritorno a Forza Italia, un processo irreversibile. Adesso dice no, io in questa Italia non ci entro, come diceva Santanchè, con Berlusconi poi, perché Berlusconi vuole azzerare tutte le cariche. Essere lui presidente, ma senza Berlusconi, Alfano piglia voti? Sentiamo. Quando ci tornerete? Stiamo accelerando e penso che il progetto di ritorno a Forza Italia possa ritenersi un progetto avanzato e mi verrebbe da dire pressoché irreversibile. È talmente irreversibile che oggi dice che non ci vuole andare. TG3 titoli. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. PDL verso la rottura, Berlusconi convoca l'ufficio di presidenza per dare il via a Forza Italia, Malfano non ci va, lo scontro è rinviato al Consiglio nazionale. Pisani, ora la navigazione del governo si è fatta più difficile, congresso PD, Renzi torna alla Leopolda per lanciare il suo programma. Il Movimento 5 Stelle dice no all'incontro con Napolitano sulla legge elettorale, il Quirinale nessuna prevaricazione sulla minoranza. Letta dopo il vertice europeo, abbiamo messo al centro il tema dell'immigrazione, data gate, inammissibili zone d'ombra fra alleati, io spiato, non lo so, lo scandalo intercettazioni diventa planetario, il Guardian, 35 leader spiati dagli Stati Uniti, l'Europa protesta, il ministro Bonino, l'Italia non è coinvolta, il clima di scontro avvelena il paese, gli attacchi alle sentenze sono un grave pericolo per la democrazia, così il presidente Sabelli a congresso dell'associazione magistrati, domani in Arabia Saudita sarà il giorno della sfida per le donne che si metteranno al volante nonostante il divieto di guida femminile e pene severe per chi collaborerà. Beh, danzano come zanzare queste ombre sulla strada. Oh, c'è la rivolta dei sindacalisti della RAI, dei giornalisti e di altri. Io già quando sento la sindacalisti della RAI, lo so che tu hai l'orticaria forse peggio di quanto ce l'ho io. Sindacalisti. Perché oggi un signore che si chiama Tarek Ben Ammar, amico di Berlusconi, imprenditore televisivo, ha detto che lui comprerebbe domani, ma magari comprerebbe domani un pezzo della RAI. Sarebbe una cosa meravigliosa. Una, due reti vendute col signor Tarek Ben Ammar che paga e tutto va sul mercato. No, la rete, la RAI non è in vendita, la RAI non si può vendere. Ma è una cosa pazzesca, dai. Beh, sentiamo Grillo, dai, sentiamo di nuovo Grillo. C'è uno sketch meraviglioso in qualche comizio di ieri, perché si vota, non so dove in Italia, si vota sempre, in Trentino Alto Adige. Uno sketch meraviglioso con un immigrato. Prima sugli immigrati, perché sembra un leghista. Senti. Fate una foto, voglio essere... non ho capito la domanda, scusami. Sono numerose quote destinate. Sai che io ti faccio rimpatriare. Sì, magari. Sto bene a Marocco giù. Mi creano di base. Marocco è fantastico. Sì. Il Marocco, c'è una qualità della vita abbastanza buona. Sì. Solo che cos'ha il Marocco? Ah. Che il 30% del suo PIL del Marocco va per comprare petrolio. Ora, se l'Unione Europea investisse i soldi invece che in beneficenza, in sistemi alternativi di energie rinnovabili in Marocco, eviteremo che i marocchini emigrino dalla loro terra, perché nessuno vuole emigrare. Che gli frega quello delle energie rinnovabili del Marocco? No, senti quest'altra cosa qua invece, no, quando se la piglia con l'immigrazione, no all'immigrazione, sentite. Ci chiamano quelli che diciamo no, ma col no salviamo il nostro territorio e preserviamo col no, se ce la facciamo, il territorio dei nostri figli. Vivo la mia gioventù. E poi si mette a discutere con un suo elettore, con un grillino che fa utensili da taglio. Cosa fa? Aspetta. Sei nell'edilizia? No, operaio in fabbrica. Di che cosa? Industria. Sì, che tipo? Carpenteria, pesante? Utensili da taglio. Eh? Utensili da taglio. Utensili da taglio. Preparali. Appilali. Prepara gli utensili da taglio, affilali. C'ha sempre questa cosa un po' rivoluzionaria, violenta ogni tanto, Grillo, a parole. Va bene, qualche ascoltatore, 800240024, Adriano da Milano, buonasera. Sì, Cruciani, buonasera. Vada. Non potevo non soddisfare una mia curiosità. Ma quale? A lei e al suo degno compare, ma quanti soldi vi danno? Un sacco, sempre troppo pochi, caro. No, voi chiedete a tutti col pretesto che sono soldi pubblici. Ma io l'ho detto più volte quanto guadagno, non è un problema. Anch'io, siamo trasparenti. Che gliene frega? Cioè, vuole sapere sì. Pubblicamente? Ancora una volta, l'ho già detto. Si vada a risentire le puntate della Zanzara in cui non l'ho detto. Che cosa le costa? Ma cosa costa? L'ultima mia dichiarazione dei redditi è 120.000 euro. Così poco guadagni. No, io volevo sapere cosa prende per fare questa trasmissione da salto in banco. Da salto in banco? Questa è una beh, questo dovrebbe scorporare tutti gli eventi, le cose. Faccio vedere una visura dal mio commercialista nel dettaglio. E però... voi agli altri chiedete direttamente le cose, sì, che devono rispondere, e voi che lo ci sì, lo chiediamo sul pubblico. Certo, quando uno lavora, io ad esempio, quando ho lavorato. Stai buono, quando ho lavorato. Lei è parapubblico. prego, dai, non faccia. Ma lei mi sta già rompendo i coglioni, ma io le dico che per, ma parapubblico chi? Per il quando ho lavorato per la Rai, il mio, se le interessa saperlo, io quando il Brunetta lì diceva che devono scorrere i titoli, io andavo volentieri anche col cartello di quanto guadagno. Voglio che però anche i politici vadano in televisione con quanto prendono di finanziamento pubblico. Dopodiché io prendevo 4.000 euro a puntata. Vabbè, ma sei un poveraccio. Quindi voglio dire, appunto, quindi il servizio pubblico è sopravvissuto anche a me, quindi voglio dire. Adriano, che vuole ancora? Che vuole sapere? Scandalizzate. Scusi, quanto guadagna lei? Che mestiere fa? Ma chi se ne frega di quanto guadagna questo qui? Ha tempo per telefonare, non fa niente, fa un cazzo, evidente, no? Adriano, che... non fai un cazzo, non farei un cazzo tu. Ma no, ma uno non è che si mette a telefonare a Cruciani se lavora, no? Uno che lavora non chiama Cruciani. Uno che lavora seriamente non chiama alle 19:27 la Zanzara per farsi insultare. Questo è certo, questo è sicuro. No, scusa, adesso si è arrabbiato sul serio, Adriano. Uno che lavora, guarda, qui c'è tanta gente che lavora allo spazio Toyota e mai si sognerebbe di telefonare alla Zanzara, perché c'è gente che lavora, capito? A differenza di questo. Però qui. Scusa, Adriano, che lavoro fai? Ma che lavoro fa? Fa niente, fa. Adriano? Sei incazzato. Ma chiuso, no, io sono incazzato. Vabbè, io, Andrea, no, dalla provincia io di Macerata. Non lui. Andrea, dalla provincia di... Andrea, dica. Sor Cruciani? Sì. Sor Cruciani, Sor Parenzo, buonasera. Sor Cruciani, Sor Parenzo. Ma cos'è? L'osteria. Senta una cosa, voi due con le vostre faccine angeliche e con la vostra voce melodica, quando dite le notizie in radio, dite la verità per cortesia. Su che cosa? Allora, innanzitutto, il Partito Radicale Transnazionale non si candida alle politiche, quindi i radicali non prendono rimborsi. Vabbè, l'hanno presi nel passato. Mi faccia parlare. L'hanno presi nel passato. Le liste l'hanno rimborsati in piazza Navona davanti a notai, 10.000 lire, dicendo sono soldi vostri, spendendoli bene, quindi guarda. Grillo, Casaleggio e compari di merenda si sono dati un bel cazzo e molti tassisti li hanno incorniciate questi 10.000 lire per non spenderle, quindi nel 77 i radicali dicevano in Parlamento, le liste radicali ma chi se ne frega, io ho detto che hanno preso un sacco di volte i soldi pubblici, li prendono adesso per la radio. No, era il finanziamento pubblico dei partiti, noi abbiamo detto no al finanziamento pubblico radicale, liberale, liberista, libertario, Tibet libero e Speranto subito, e abbiamo detto con Sergio D'Elia, Stanzani, tu sei morto, Pasolini e Einaudi e Badò, abbiamo combattuto noi contro di loro il regime partitocratico della Corte Costituzionale immonda, del regime partitocratico dei partiti. David, ti dispiacerebbe andare a fare in culo? Questo è Mughini che ogni tanto mandi, no? Immagino. Sì, però vorrei risentirlo. Sentiamo Mughini. Sentiamo Mughini su Parenzo. Ma adesso spiego perché, però. Sì, no, lo spiego. Però sentiamo un attimo che introduce bene in un ambiente così pacato. Per carità, certo. Mughini ieri sera. Ti dispiacerebbe andare a fare in culo? Ecco, sì. Dovrei spiegare a Mughini. No, vedi direttore Feltri, cioè Mughini ha scritto... vuoi salutare innanzitutto, vuoi omaggiare? Buonasera direttore, applauso al direttore Feltri. Per grazie, direttore del giornale, direttore. Di più. Comunisti, di più. Vabbè, comunque, bisogna sta gente qui è la macchia del fango, ma tutta la gente pagata per comunque bisogna spiegare questo, che Parenzo ha detto che non vuole i cani nei ristoranti. Mughini, non toccare gli animali con lui, diventa pazzo. Mughini ieri ha scritto questo articolo su Libero, no, del suo mumu cucù, non mi ricordo come si chiama, dicendo prima nei ristoranti, nei locali bugi non entravano gli ebrei, poi i meridionali, ora finalmente possono entrare i cani. Ma io dico, io quando vado al ristorante, cioè, voglio, come c'è la sala per i fumatori, io sono fumatore, no, gli ebrei non andavano al ristorante per non spendere. Ma no, questo però lei è veramente lei è una, cioè nei luoghi comuni più bassi siamo qui dice lei si abitua al linguaggio che c'è in questo. Però dico, ma uno, faranno le sale per i fumatori, faranno anche le sale per i cani, no? Per cioè tu non vuoi i cani in mezzo ai coglioni quando mangi, questa sì, è la io vado a un ristorante, ci sono 60 coperti e per intenderci arrivano 60 persone con 60 cani, ma come cazzo faccio a mangiare tranquillamente le mie tagliatelle al tartufo con 60 cani? Ma qualche cani volta lì? I cani si comportano meglio degli umani, diglielo Vittorio. Sì, su questo non c'è dubbio, però diciamo che il ragionamento fila, perché 60 sarebbero troppi. 60, però 6 si possono sopportare, no? Sì, dai, allora, su, ci su, sono su le sale. Io comunque Mughini, resta lei, mi sei incazzato. Siccome è una discussione che abbiamo fatto Mughini, ieri sei sera, incazzato chiudiamo per questo. Io la chiuderei con questo epitaffio di Mughini, questo epitaffio finale. Sì, sei arrabbiato. No, ma lo diciamo, un epitaffio finale su Parenzo che mi sembra che racchiuda anche l'opinione di molti ascoltatori che intervengono su questo. No, rimettiamolo per favore, regia. David, ti dispiacerebbe andare a fare in culo? Cosa, che possa chiudere. Però è gentile, però l'ha detto con una, ti dispiacerebbe, anche, capito? Esatto. Quello, vabbè, l'ha detto con una certa grazia. È gentile lui. Sì, molto, sì, assolutamente, molto. Assolutamente. Anche gentile. Su Carlo Rossella ha detto delle cose. Ah, sentiamole, dai, sentiamole, sentiamole. Gentile su Carlo Rossella. Però la gente che è in macchina sui camion, non è che sa, non che sa è Carlo Rossella. Se ne sbatte le palle di Carlo Rossella. È uno che ha guadagnato un sacco di quattrini grazie a Berlusconi, e non solo a Berlusconi, è stato anche un bravo giornalista. Adesso fa il presidente di Medusa, è stato insomma un personaggio importante alla vita del giornalismo italiano, e il quale però una volta tagliò un pezzo di Mughini su un'intervista alla Bonef, che è quella che è andata alla Santoro, che prima andava con Berlusconi e comunque frequentava la casa di Berlusconi, era amica della Pascale, adesso dice che invece la Pascale è lesbica, vabbè, tutto quello che molti di voi sanno. E Mughini dice, ma no, questo non me lo... Ma voi la lesbica ancora non ce l'avete, come potete pensare di accrescere il vostro successo? No, quindi se non c'è una lesbica vuol dire che non siete nessuno. Beh, questo però, attenzione, questo non è detto che non ce l'abbiamo. In che senso non ce l'abbiamo? E portarla qui, fare una conversazione, intervistarla. Una lesbica è di moda. Va di moda, eh? Assolutamente. Va di moda. Cioè, se non c'è una lesbica non sei trendy, dice. Figurati, guarda Santoro che è sempre il primo della fila. Ma ci sono lesbiche al giornale, secondo lei? Pieno di lesbiche. Al giornale? Come no, no, è una cosa impressionante. No. Ma come pieno di lesbiche? Praticamente tutte. Ma no, no. Ma perché tu dici che le donne, che tu conosci molto bene ovviamente, anche tu ti piacciono le donne, mi sembra. Sì, hanno, infatti io non ho niente con le lesbiche perché hanno i miei stessi gusti, per cui... Ah, sono dei concorrenti, sono. Però sì, scusi, professor Feltri, hai detto una cosa recentemente a Rai 1, o a non mi ricordo dove, che va un po' contro quello che tu pensi sugli omosessuali. Ci ho detto, gli omosessuali per me possono fare tutto, sposarsi, certo. Però basta che... Beh. No, io ho detto che se stanno a un metro da me preferisco, perché non mi piacciono i corteggiamenti tra uomini, smancerie, cioè mi dà fastidio. Vabbè, se lo fanno a me, poi se lo fanno cioè, se con ti corteggia, altri... Se ti corteggia un gay ti dà fastidio? Beh, non ho mai provato, però penso proprio... No, non sei il tipo, secondo me, non sei un'icona gay. Non credo. Non sei un'icona gay. No, non però godo sai di, che, nell'ambiente sai che sono non godo di molte simpatie. No, sono stato oggetto... Sai che stavo per essere oggetto ovviamente di una porcheria di gossip pazzesca? Lo racconta Sara Tommasi, la nostra amica Sara Tommasi. Lei ha delle frequentazioni? No, non è mai stata la mia frequentazione. Perché, no, ma in generale... No, senti che racconta. Ieri sera in una trasmissione radiofonica condotta da Selvaggio Lucarelli. Sentiamo. Ma aveva offerto di fare uno scoop ancora prima di andare in gara, stavo ancora a pensare allo scoop. Salutiamolo in carcere. Che scoop voleva fare il giorno prima di andare in galera? Voleva fare lo scoop con Cruciani. Oddio santo, proprio con Giuseppe. Cioè voleva che tu facessi una foto con Giuseppe. Sì, sì. E tu che gli hai detto? No. E io gli ho detto guarda, adesso ci penso perché ero fuori città e quindi è andata così. Vabbè, che devi fare? Pure quell'altro. Capito? Mi volevano fregare, invece sono ma qui. Lo scoop in fare tonso. Una foto con te, scusa, non sì, capisco. Ma ti rendi conto, Vittorio, che livello siamo arrivati ormai? Tutto finito. Va bene, 800 24 00 24, con noi Vittorio Feltri. Allora, che vuol dire questa cosa di... Parliamo di cose un po' serie, no? Non ce ne frega niente, di Alfano. Cioè, quanto valgono questi qua senza Berlusconi? Albano? No. Vedi che... Come Albano? Albano. Albano e Romina. Cioè, lo paragoni ad Albano, secondo te? Ho capito Albano. Ah, no. Comincio a invecchiare. No, è più popolare Albano di Alfano, credo. Penso di sì. Ma secondo forse, te è un traditore? Forse anche più votato. Ma è un traditore secondo te o no? No, ma questa categoria dei tradimenti non appartiene alla politica. Alla politica. La politica si fa quello, diciamo, che interessa di più. In questo momento in particolare la teoria che va per la maggiore è la seguente: si salvi chi può. E a questo punto uno va dove trova un tetto. Alfano. Dove va a cercare? Al Quirinale. Ah, perché tutta una trama ordita dal Quirinale. La trama, insomma, cose sono chiacchiere, cioè, è napolitano assimilabili che gli... alle chiacchiere di osteria, visti i risultati che stiamo ottenendo col con governo, questa dice, politica, eccetera. Per cui secondo te non va da ne... cioè, alla fine sono tutte senza Berlusconi, hanno i voti questi qua o no? Questi ministri? Secondo me, nonostante si dica che Mannheimer abbia dei dati interessanti, senza Berlusconi non vanno da nessuna parte, con Berlusconi idem. Ah, uguale. Cioè, ormai, ormai la situazione si è deteriorata, non vederlo, continuare a sperare come fanno i cosiddetti falchi, che sì. Poi io di falchi sinceramente non ne ho mai conosciuto. No, io ho conosciuto polli, sì. Galline, molte oche, ma falchi, colombe neanche una. La colombe no. No. Cioè, Alfano non è una colomba, secondo te, no? Non mi sembra, è un tacchino. No, anzi, è molto furbo. Per... Però scusa, nel tuo giornale comanda un po' la Santanchè, bisogna dire un po' comanda. No, comanda Sallusti, che poi Sallusti casualmente abbia dei rapporti affettuosi, sì. Direi quasi, sì. Cioè, non lo so, un po'... come si definiscono stanno insieme, cioè. E probabilmente si parla. Ma com'è vedere tutti i giorni Sallusti? Perché io ad esempio tutti i giorni vedo Cruciani, per lei è diretto tutti i giorni, vedere questo Sallusti tutti i giorni, com'è fisicamente? No, ma io lo vedo da 12-13 anni, forse di più, dall'89 lo vedo. Dall'89. Sistematicamente, ci si abitua a tutto. Non ti sei stufato? No, no. Ti sei stufato, no, no, assolutamente, anche perché mi lascia in pace, mi rispetta. Ti rispetta. Abbiamo dei rapporti anche d'amicizia che durano appunto da parecchi anni. Ma hai fatto la sua fortuna da un certo punto di vista, che a un certo punto lei sì, no sì. È Boffo che ha fatto la sua fortuna. Ah, adesso questo non lo risponderei. Beh, questo no, questo è te, sei Boffo dalla vicenda. Boffo ha fatto la sua fortuna. Beh, però lui un po' ti ha dato la polpetta avvelenata, no? Chissà. Beh, non potrei dirlo, insomma, non posso sospettarlo, ma posso dirlo, ma niente di... Però, insomma, ma non te l'ha fatta apposta. Sì, è un po' come il tradimento in politica. Sì. In politica si usa il tradimento, nei giornali le polpette, che peraltro a me non piacciono, l'ho mangiata lo stesso. Però, scusa, vabbè, però sei passato sopra questa cosa qua, dice, può succedere, anche un amico ti può dare una polpetta così. Sì, ma poi non sospetto neanche la polpetta, credo che anche lui, come me, in buona fede... Sì. Abbia preso sto polpettone e se lo sia ingoiato, e poi naturalmente è stato avvelenato io, ma questo è un altro. Ecco, però adesso questo, se uno dice il giornale, no? Oggi con chi sta questo giornale? Cioè, con i falchi o con le colombe? Sta con Berlusconi ormai. Beh, giornale, adesso, no? Beh, mi sembra evidente che la linea tenuta dal giornale coincida con i desideri di Berlusconi. Questo però lo si vede leggendo il giornale, non lo dico io. Cioè, o mi sbaglio? Io lo leggo tutti i giorni. Cioè, confermato. Cioè, non mi sembra un giornale critico nei confronti di Berlusconi. Non penso che noi si faccia la fronda. Però l'hai portato tu, Sallusti, al giornale, no? Certo che l'ho portato io. Cioè, Vabbè, dici si può fare. No, ma voglio Sallusti è un bravissimo giornalista. No, certo, perché quindi perché non è che mi sono portato un fesso, mi sono portato. No, anzi. Tant'è vero che adesso c'è lui al posto mio. Vuol dire che è più bravo di me. Però no? È diventato quasi un protagonista della politica, hai visto come ha combattuto, certo, ma lui combatte come un leone, eh? Sì, ma va a finire in Parlamento, secondo te può darsi, Bisogna vedere se il PDL o Forza Italia finirà. Beh, perfetto per Forza Italia. Ma avete letto il titolo su che? Dago Spia? No, di che? Farsa Italia. Ah, sì, sì. Carino, beh, no? Sì, normale. Io l'avrei fatto sul giornale. Sì, Farsa Italia. Farsa Italia. Cosa sarebbe successo, secondo te? È un casino. Cioè, tu faresti molto di più, direttore, la fronda di come non stanno facendo oggi al giornale. Ma io senti, ma ha fatto bene Veronica Lario a chiedere 46.000, a opporsi per i 46.000 euro al giorno di Berlusconi? 1,4 milioni di euro? Ha fatto bene nella misura in cui continua a riscuotere. No, secondo me sarebbero troppi anche la metà. Perché dici? Ma perché tu con quanto... Cioè, lui, poverino, Arezzo, si è già confessato che vive con 120.000 euro l'anno. Questa signora prende 100.000 euro al giorno. No, 46.000. No, adesso... Adesso, sì. Hanno chiesto di ridurre sì, esatto. E lei da 100.000 a 46.000. E lei si oppone. Cioè, ma cazzo, come faccio io con 46.000 euro al giorno? Ma dove vado? Però tutto è proporzionale. Però, oggettivamente anche lei avrà le sue ragioni, no? Dice quello lì, comunque qualche soldino ce l'ha, è tutto in proporzione, no? Ho capito, ma fa bene, rivendica i suoi diritti. Non fa bene a rivendicare i suoi diritti. Mediaset l'ha mica fondata lei. Ah, quindi è un'ingrata. Non fammi prendere delle querele. È un po' ingrata, bisogna dire. Se io, ti opponi a 46, io avevo già fatto un titolo Velina ingrata che sei mi ha portato molte antipatie. Guai no, perché Libero non era sicuramente un giornale della famiglia Berlusconi, quindi sì, nessuno mi poteva dire niente, però lettere, insulti, insomma, grane varie, voi sapete che fare questo mestiere comporta anche qualche casino. Qualche piccolo casino. Vabbè, che sentiamo? Sentiamo qualcosa? Sentiamo qualcosa? Sentiamo qualcosina? Che sentiamo? No, sentiamo... Albano. No, Albano, sentiamo... Come Albano? No, la Albano. Canzone. No, Albano. Voglio sentire Vattimo, mi sono fissato questo Vattimo. Voglio risentire Vattimo su Israele. Fatemi risentire Vattimo su Israele, dai. Non via, mi via, mordere il dito, non mi macchiare il vestito, ma non mi mordere il dito. Non voglio che ci sia uno stato confessionale razzista come Israele. È certo che è razzista, alla faccia. Prendetevi qua, guardate i diritti degli israeliani non ebrei. No, per carità, io non ho mai negato l'olocausto. Sono scandalizzato dell'uso spregiudicato che fa Israele dell'olocausto per giustificare la propria politica razzista. Questo era Vattimo. No, non è ancora Vattimo, però chi se ne frega. Intanto stop al PDL, adesso Forza Italia. Berlusconi sembra andare avanti nonostante le colombe non abbiano partecipato. Ma secondo te alla gente interessano queste cose qui? Cioè, chi sta guidando adesso in macchina, in taxi? Secondo chi... me se ne strafottono. Se ne strafottono, sì. Anche loro se ne strafottono, mi sa, di tutte queste cose. Di... Non li vedo molto eccitati. Non sono molto eccitati, no. Non è che la gente effettivamente torna a casa e dice, oh, vediamo che cosa ha dichiarato Alfano. Questo oggettivamente... speriamo che le colombe... Sì, ma che colombe... Giovanni da Campobasso, buonasera, dica. Buonasera. Sì, voglio dire a quel cane randagio di Parenzo. L'intellettuale. Chiamato Umberto Eco adesso, sentiamo. Che si deve dare una calmata. Sì. Sì. Cani, chi... Ma chi è questo? Da quale quale clan appartiene? Stai calmo, non ti arrabbiare. Perché tu col microfono al culo e alla bocca sei il pericolo numero uno in questo paese. Della crusca, questo. Dolce stillo vista. Però scusi, caro Giovanni da Campobasso, lei ha aspettato 20 minuti al telefono, almeno 20 minuti. E poi mi fa aspettare. Vabbè, questo fa parte del gioco. Non aveva cose così, diciamo, intelligenti. No, ha aspettato 20 minuti al telefono per dare del cane randaggio a Parenzo. Certo. Lei lavora? Lei lavora, ha un'occupazione? Lei è un cane randaggio. Vabbè, abbiamo capito, d'accordo, va bene. D'accordo, benissimo, adesso veniamo a prenderla con un'ambulanza. Ma da quale ambulanza? Che testa, che cosa ci vuole? Vuole la camicia, quella che si appunta dietro. Cane randaggio. Questa trasmissione è questa trasmissione. Perché approfondisce? Che c'è da approfondire? È interessante capire. No, ma scusi, lei che mestiere fa? Ma che cosa c'entra questo che no, c'entra, no. Per il discorso di cui prima, cioè delle telefonate, eccetera. Sì. Lei che mestiere fa nella vita? Di che si occupa? La calappia cani fa. Indifferisce sulla mia telefonata. Ma potrebbe anche, però scusi, io le faccio una domanda. Se vuole rispondere, bene, altrimenti mette giù il telefono e se ne va. Ma io non ho telefonato per dire che mestiere fa. Ma io invece le chiedo, siccome comando io, cioè non è che comanda lei, comando io. Le chiedo, lei che mestiere fa? Ma lei deve andare a comandare a casa sua. No, ma questa è casa mia in questo momento. In questo momento è casa mia. Ma anche... ho chiamato per un altro discorso. Ma qual è il discorso? Non è un discorso. Ma non è una radio di assistenza sociale questa qui del telefono amico. È la radio della Confindustria. Non è che tutti i matti possono chiamare. Cioè la trasmissione è fatta. Matto sei tu. Sei dentro a quella radio. La notizia buona è che questa. I soldi di chi lavora. Soldati sono i soldi della Confindustria e quindi di chi lavora veramente. Ma la cosa è questa, per sua fortuna lei potrà continuare a chiamare perché il ministro Lorenzin ha rinnovato la convenzione per i malati di mente e questa trasmissione è in convenzione. Primo, e quindi lei potrà richiamare con grande gioia quando vuole all'800. Vabbè, Giovanni, perché cane randaggio? Non perché capisco. Devi approfondire le cose che dice un coglione. Perché quando si arrabbia i cani randaggi fanno così. Randaggi basta una G però forse. Però scusi, cane randaggio in realtà non è che sia necessariamente una cosa. Perché due G, chi se ne frega, gratis, mettiamo due G. In italiano però è randaggi, giusto per randaggi, una G randaggio sei. Ecco, una G, però basta una G, perfetto. Io lo sai che lo vorrei conoscere questo qua, ma Giovanni. Io no, non c'è problema, ma tu, ma lei Giuseppe. Perché lei una volta mi dice che so voglio conoscere che so io, no, un arcista, voglio conoscere un grande pittore, perché sei un cane randaggio. No, ecco, vediamo la spiegazione. Perché quando uno dice una cosa che va bene a te è tutto ok. Quando dici una cosa che non va bene a te, ti fai come un cane randaggio. Hai capito? Testa di melone sfatto di quale... di quale terra che non esiste in questo pianeta? Melone sfatto. No, melone sfatto. È la perifa, è articolato. Perché di quale di una terra non esiste, che non esiste in questo pianeta? Questo è sofisticato però. Però adesso facciamolo smettere di abbaiare che ci ha rotto le balle. Va bene, andiamo con Giuseppe dalla provincia di Chieti. Buonasera. Ah, buonasera Cruciani, noi la chiamo dottore perché il suo, la sua laurea se l'è presa alla CIP, quindi non vale niente. Alla la CIP. L'abbiamo raccomandato di farlo. Sì. Vabbè, io non rispondo nemmeno. Posso capire perché a questa trasmissione chiama tutta questa gente? Non mi faccio parlare con il suo aiutante, il vomito. Ecco. Sta arrivando uno sputo in faccia al vomito. E sta arrivando, si sposta un po' e lo colpisce proprio in faccia a questo vomito di merda. Vabbè, dai, Giuseppe, basta. È sempre la radio della Confindustria, comunque. Allora, vomito di merda, stia zitto, stia al bagno, che quello è il suo costo. Vabbè, adesso però andiamo al di là di Parenzo che cosa voleva dire? Adesso come fai a chiedergli che cosa voleva dire a uno così? Vabbè Giuseppe, allora andiamo a... Voleva dire che lei che fa Cruciani, che fa le domande indiscrete, allora lei deve dire chi la raccomanda, perché lei assieme a Giannino e al suo aiutante vomito deve dire chi mi raccomanda, perché lei se discorrendo bene tutte le trasmissioni che ha fatto, dove c'è uno che la raccomandava poco, cioè non era molto raccomandata, le hanno addebitato pure i costi. Va bene, senta, non c'è nessuna raccomandazione per fortuna, nel bene e nel male mi sono fatto da solo, nel bene e nel male. Beh, danzano come zanzare. Ho alzato il livello stasera. Sulla strada. Grazie. E cadono le ceneri della città. Governatore di regione importante. Friuli Venezia Giulia è una regione piccola, però hanno i soldi là, sono anche ricchi. Deborah Serracchiani, Partito Democratico, buonasera. Salve, buonasera. Li avevano i soldi, se posso permettermi. Vabbè, in che senso li avevano? Adesso non è che tutti a piangere miseria. È sempre una regione ricca, non è che adesso stai dicendo che i friulani sono poveri. No, questo non intendo dirlo. Intendo dire però che proprio perché era una regione dove si produceva tanto, la crisi si sente di più, è evidente. Ah, in questo senso, la crisi si sente di più. Vabbè, sì, come in tutte le altre parti d'Italia, insomma, no? Ma perché no. Oggi le notizie di oggi non sono buonissime. Ma Serracchiani, scusami, perché sei in Friuli, nella tua regione, non sei alla Leopolda col signor Renzi, ad esempio? Vabbè, domani andrò. Ci pregherei di chiamarla Friuli Venezia Giulia. Friuli Venezia Giulia. No, c'è un motivo del tutto personale. Domani c'è il battesimo del mio nipotino, di cui sono la madrina, e quindi per motivi familiari c'è una priorità. Auguri. Delle priorità. Però tu appoggi Renzi, no? Al congresso, mi sembra. Sì. Appoggi Renzi, assolutamente. È scontato, no? Cioè, Renzi vince a mani basse, direttore. Ah, penso di sì. Ma tu lo voteresti Renzi, per esempio? Ma in che senso? Cioè, siccome Briatore... No, non sei del PD, però sei uno libero, che te ne frega a te? Cioè, non è che sei vincolato da qualche cosa. Ma se non avessi un'alternativa migliore, voterei... Cioè, Briatore, per esempio, cosa ha detto? Ha detto, se non c'è Berlusconi, se non si presenta Berlusconi, che è il mio punto di riferimento, io voterei per Renzi. Non è così folle la cosa, no? Ma io l'ho già detto, l'ho già scritto. Cioè Renzi lo voteresti? Renzi è uno che finora ha mostrato molto fumo e io, siccome fumo molto, ho apprezzato Renzi. Poco arrosto. Mi piacerebbe anche poi vedere se c'è un po' di arrosto. Se ci sarà anche l'arrosto non avrò difficoltà a votarlo. Io non ho pregiudizi, figurati. Non escludi di votare uno del Partito Democratico. Berlusconi non c'è, c'è Alfano, c'è Renzi. Cioè tra Alfano e Renzi chi voteresti, per esempio? Messi di fronte così a sé. Adesso mi fai una domanda di quelle veramente difficili. Dovrei pensarci almeno 15 o 16 anni. No, dai, tra Alfano e Renzi, però così, detto come personalità, chi voteresti? Io non ho dubbi. Renzi è più simpatico, più brillante, ma su questo non c'è il minimo dubbio. Renzi e Alfano voteresti. Però vorrei anche un po' capire che cosa intende fare Renzi e soprattutto con quali risorse, perché non so se avete notato, tutti hanno degli ottimi programmi, ma nessuno ci dice con quali soldi realizzeranno quegli stessi programmi. Però comunque infatti non li realizzano. E questo siamo tutti d'accordo. Però tra Renzi e Alfano, così di prima chito, di prima botta, io Renzi. Probabilmente anch'io. Anche tu, eh. Avete un altro lettore, cara Serracchiani, il direttore del giornale Vittorio Feltri. Ci sentiamo tra un attimo. Bisogna essere maggioranza. Hai capito? Questo è il vero problema. Silenzio, la vecchia! La vecchia di villaggio rimane nella storia, nella nostra. Mi sta arrivando un sacco di insulti per la questione che ho detto sui Rom. Lo trovo veramente incredibile. Perché io, direttore, ho detto che non vedo grandi differenze tra i Rom e i leghisti. Perché, cioè, voglio dire, no, ripetila questa cosa. Qualche differenza. No, ripetila, ripetila anche davanti al governatore del Friuli Venezia Giulia Serracchiani. No, voglio dire, sono stanziati. Esatto, no, però voglio dire, gli altri sono nomadi. Ci sono proprio, hai fatto un casino. Ci sono proprio due cose. No, però ha detto una cosa. Senti, guarda, senti. Ad esempio, cioè, voglio dire, i Rom rubano l'oro, no? Chi? I Rom. Il rame. Cioè, Belsito rubava i diamanti. Quindi questo era il primo punto in comune. Poi ci abbiamo i Rom che sono per le tradizioni popolari, per le tradizioni antiche, popolari, girano con quelle gonne meravigliose. I leghisti giravano con le corna in testa e con le camicie verdi. Guarda, quelle gonne siamo in tanti ad averle. Beh, questo però parli per lei, direttore. Cioè, anche per me, ma. Però non si sa mai, si tocchi meglio sulla testa. Poi? Quindi voglio dire, no, alcuni fanno il, non vedo differenze così sostanziali sostanzialmente tra chi tutela la cultura locale identitaria come fanno i Rom e come fanno i leghisti. No, stanno, era una provocazione, stanno, stupida, no, le tue solite stupide, si stanno arrabbiando tutti. Dico, se guardiamo il Parlamento, ci sono molto più pregiudicati in Parlamento che in un campo Rom di via Tribognano a Milano, ad esempio. Statisticamente. Ho ragione, sì. Va bene, siamo in collegamento telefonico con Deborah Serracchiani, governatore del Friuli Venezia Giulia, Partito Democratico. Voglio subito chiedere una cosa, che è questa. Renzi vuole fare il segretario, Renzi che lei appoggia, vuole fare il segretario e anche il sindaco di Firenze. Ora, io dico una cosa, lui è sempre stato il campione dell'anticasta, anche, credo abbia detto qualcosa, adesso lo andrò a cercare nei nostri archivi segreti sui doppi incarichi, le cose, ma è possibile fare il sindaco di una città in poi che è caduta? La linea di chi? La domanda è caduta. La Serracchiani è caduta? Vabbè, adesso la recuperiamo. Dunque devo rifare la domanda e tutto. Va bene, Nazareno dalla provincia di Messina. Su. Chi è Nazareno questo signore qui? Nazareno, provincia di Messina, c'è o non c'è? Nazareno? Ma non chiama Renato da Pistoia, e questo si chiama Nazareno. Capito. Dai, Renato da Pistoia. Ciao, sono Renato. E io volevo chiedere a Parenzo perché ce l'ha così tanto, anche lei Cruciani, comunque Parenzo ce l'ha così tanto con quelli del Movimento 5 Stelle, non sa neanche ammettere. Scusi, le io cose oggi ho detto una cosa sola, che questi qua hanno fatto bene a non prendere i soldi del finanziamento pubblico, lei mi dice che no, dicevo Parenzo, che non è che neanche ammettere. Ammettere che sia una cosa positiva, questa è bella. Perché non sopporto le ipocrisie di queste mani pseudo, di queste mani pulite, di questa idea della democrazia di internet, di questa poi, purezza, diciamo della la selezione, ma della questa la novità delle cose, il mondo che gira, la vita che va avanti, queste cose lei non riesce a sopportare. La selezione della classe dirigente attraverso però internet, questa cosa dell'impeachment a Napolitano, diciamola, ma che è una cazzata pazzesca. Dai. Il Presidente della Repubblica sicuramente ha un ruolo improprio adesso, fa i governi, comanda, eccetera, però mettere in stato d'accusa Napolitano, scusa, Vittorio, pure mi sembra una stronzata, no? Ridicola, no? Serracchiani? Sì, eccoci sono. Eccoci qua. Allora, io stavo dicendo prima, Renzi può fare il segretario del partito, che non è una cosa da poco, no? Perché bisogna organizzare, fare, avere a che fare con i dipendenti, con la linea politica, con le cose, e fare una cosa impegnativa come il sindaco di Firenze, che non è Origgio, non è Treviglio, che è qua vicino. Secondo lei si può fare? No, ma io guardi, francamente non trovo che ci siano delle incompatibilità, non di tempo, no. Quello che conta è la chiarezza delle idee e anche la squadra con cui si fanno le cose, insomma, questo mi pare evidente. Ma il tempo anche. Però, scusa, i segretari nazionali che fanno i parlamentari evidentemente hanno impegni importanti anche loro, ciononostante fanno i parlamentari, insomma. No, però è una cosa diversa, perché i parlamentari e i segretari sono due cose, insomma, sai, in Parlamento ci sono le assenze, gente che fa l'80% di assenze, in Parlamento ci si può andare, non ci si può andare, comunque se uno dei tanti è negativo non andarci, per carità, però insomma, non è drammatico se uno fa il 50% di assenze in Parlamento. E un ruolo istituzionale è diverso, cioè lei per esempio da governatore Friuli Venezia Giulia potrebbe fare il segretario del partito, non credo, no? Ma guardi, io sinceramente non l'ho preso in considerazione, quindi non le saprei dire. Quello che capito. Le posso dire però è che non è certo un'incompatibilità nei ruoli. Io penso anzi che sia arrivato anche il momento che chi ricopre incarichi nazionali come quelli di segretario di un partito importante come quello come il Partito Democratico possa essere anche un amministratore locale. Perché no? Cioè, ogni volta diciamo che è un partito dedicato sui territori. Ma non è una città qualunque. Uno come fa a occuparsi di Firenze? Uno si assume le responsabilità mica giocando. Insomma, evidentemente ritiene di poter svolgere al meglio quei due ruoli. Dopodiché sta facendo bene, perché secondo me sta allargando assolutamente ad un gruppo di persone capaci che possono dargli una mano. Questo è fondamentale. Insomma, no, i leader sono capaci di scegliere, sono leader quando scelgono le persone con secondo cui me invece secondo me quello sono d'accordo con lei, bisogna scegliere le persone giuste, ma questo va da sé. Però la cosa fondamentale è che uno non è che può essere Firenze-Roma, beh, adesso con l'Eurostar ci si mette un'ora e tre quarti. No, ma insomma, però guardi, l'altra sera Bologna aspetti, Bologna-Firenze ho impiegato 28 minuti, credo, una cosa del genere. Vabbè, quello però è Firenze-Roma, però è una questione di trasporti, è una questione che uno deve girare per le sezioni, le federazioni, stringere le mani ai compagni e alle compagne, cioè deve girare, credo, il partito. No, non è che cioè, non si può, pure Feltri è molto scettico qua, che non è che sia così negativo su Renzi, però dice non si può fare il segretario e il sindaco di Firenze. Ma Firenze è una città importante, che penso richieda anche una presenza costante e un impegno costante. Se uno è distratto, che poi è distratto, sai, un partito come il PD credo che sia difficile da guidare. Almeno come il PDL, forse anche un po' di più. Più bisogna avere a che fare con un sacco di cose. Poi un partito. Questa è la nostra perplessità. Poi Renzi fa quello che vuole. Lei mi è troppo però renziana, però, signora Serracchiani. Lei non farebbe il segretario del partito. Non farebbe il segretario del partito. Su là, Venezia Giulia, bisogna amministrare una regione diversa da una città. Però Firenze ha problemi grossi. Cioè, non è che uno può andare. Ma io non sto mica banalizzando i due ruoli. Lo può fare. Lei dice che lo può fare. Vabbè, lo può fare. Firenze è un ruolo straordinario, oltre che bellissimo. Appunto, uno deve fare solo quello nella vita. Se uno fa sindaco di Firenze, fa sindaco di Firenze e basta. Ma poi se vuole fare. Guarda, intanto c'è il congresso del Partito Democratico e Renzi, a mio avviso, deve mettersi a disposizione del partito per cercare anche di cambiare le cose. Questo è fondamentale. Dopodiché allora, farà infatti tutte le scelte più giuste. Dunque, secondo lei lo può fare comunque. Vabbè, ho capito. Senta, ma è d'accordo sul fatto che la Bindi debba rinunciare ai benefit della commissione antimafia? Altra cosa. Come chiede il signor Renzi? Ma allora, io questa cosa non l'ho seguita, ma sinceramente non lo so se è una questione di benefit. Io penso, guardi, che in queste condizioni, io oggi ho avuto notizia che un'azienda del mio territorio, 4.000 persone, sta pensando di disimpegnarsi e uscire dall'Italia. Allora, di fronte a queste notizie qua, lei capisce che diciamo così, la politica dovrebbe fare dei gesti in modo, direi, spontaneo e automatico, senza che nessuno li chieda. No, ma spero che venga il momento. No, lei dice dovrebbe fare dei gesti spontanei, però la signora Bindi prende dei benefit in più rispetto al ruolo da deputato, circa 3.000 euro, perché è presidente della Commissione Antimafia. Renzi dice, tu puoi rimanere presidente della Commissione Antimafia, non si capisce a che titolo glielo dica, dopodiché dice, tu devi rinunciare a questi soldi. Secondo me è assurdo, perché se uno ha quel ruolo lì di presidente della commissione antimafia dovrebbe prendere i benefit. O chiudi la commissione, ma cosa se c'è fategli prendere. Cosa che si dovrebbe fare, chiudere la commissione antimafia. Però quanta demagogia, no, 3.000 euro, esatto, tu che guadagni tutti quei quattrini. No. Che diceva Serracchiani? No, allora io faccio il presidente della regione, sono anche commissario straordinario della terza corsia della 4 Venezia Trieste, per cui non percepisco un euro, perché ho fatto la scelta che quanto prendo da presidente è sufficiente anche per svolgere quell'attività. E dunque la Bindi prende i soldi da deputato e deve rimanere con quei soldi. No, ma io penso, guardi, ho letto sui giornali, spero sia vero, che per la prima volta dal 1960 alla Camera si sono risparmiati 50 milioni di euro. Io penso che quella sia la strada giusta, ma si può fare di più. Quindi, però sto parlando della Bindi, io non sto parlando in generale. I benefit che si accompagnano ad essere presidenti di commissione, alcuni privilegi, eccetera, cioè alla volta forse che li rivediamo, ma non per la Bindi, in generale. Vabbè, in generale, però la Bindi se rinunciasse farebbe un buon gesto, giusto? Come tanti altri, Vabbè. Serracchiani ha ragione. Come ha ragione? In che senso? Ragione. C'è una demagogia pazzesca. No, o si fa per tutti, ma non si capisce perché solo la Bindi, non perché c'è antipatica, debba essere messa questa in croce. Questa è vero. Senta, ma Grillo sugli immigrati, le sembra che abbia le stesse posizioni della Lega, spesso? Ce l'ha con me, scusi, non ho capito se parlavo con direttore. Con lei, ah, con il suo amico di me. A me è molto colpito le scudisciate che ha dato ai senatori che avevano presentato l'emendamento che era passato al Senato sul reato di clandestinità, insomma, perché mi pare che abbia dato un indirizzo molto chiaro, insomma, l'indirizzo è molto simile a quello che ha fondato la Bossi-Fini e quindi la Lega, insomma, buona parte della destra. Mi pare che, insomma, sia assolutamente appiattito su quel tipo di considerazione. E devo dirle che mi ha ancora di più rattristito leggere che rattristito, no, ho detto una sciocchezza, rattristato. Non è l'Accademia della Crusca questa qui, come ha sentito dalle telefonate degli amici che hanno chiamato prima. Quindi, no, dire, diciamo, randaggio. Vabbè, quello è rattristato, com'era la cosa, rattristito, rattristato. Andiamo a lezioni di lingua, diciamo, non diffonderemo questa sua gaffa, no, chiaramente. Grazie, troppo buono, troppo buono. Diciamo che ho detto che mi ha rammaricato, ecco. Leggere soprattutto nel post, se non ricordo male, che non si devono fare certe cose perché altrimenti avremmo preso il consenso elettorale di un prefisso. Non so, però... Cioè a dire... Però ragionano tutti così e non lo dicono. In quel caso Grillo l'ha detto esplicitamente. Tutti ragionano così. Sull'immigrazione ragionano tutti sul consenso. Su, diciamo la verità. Moltissimi ragionano sul consenso. No, ma infatti ha ragione. Cioè, quello che però le sto dicendo è che, francamente, qua bisogna fare una politica dell'immigrazione. Pensare che uno possa governare il paese o dica di voler governare il paese semplicemente basandosi su politiche del consenso, francamente... Guardi, forse per me, io la penso molto diversa, la penso in maniera molto diversa da lei. Io i clandestini li prenderei a calci in culo, io lo dico. Eccolo là. No, ma calci in culo in senso metaforico, ma non in senso materiale, in senso ma non materiale, via a casa i clandestini. Uno dice: ce l'hai i documenti per stare qua? Non ce l'hai. Vieni per lavorare? No, non c'hai il permesso di soggiorno per lavorare. Da dove vieni? Dal Niger, uno stato che non è uno stato in guerra, non sei un profugo, eccetera. Prendi, vieni messo su un aereo e vieni portato via. Se uno non fa così, la legalità non funziona. Ma questo già è così. Ma che legalità? Ma lei pensa che questi non verrebbero ugualmente? Ma il punto non è quello, scusi. Capito, vengono. Premesso, scusi, che io francamente vorrei comportarmi sperando che, se capita a me una cosa del genere, non si comportino nello stesso modo. Cioè, oggi tocca a loro, domani magari tocca a noi. Allora, se questo è un presupposto, ed è stato così anche in passato, io penso sicuramente che bisogna applicare l'ordine, e ha ragione lei, quindi fare degli accordi bilaterali sul riconoscimento e sulla possibilità di farli rientrare, tutto quello che vuole, ma che essere clandestini, persone che scappano dalla guerra, condizioni di povertà terribili, lei li fa mettere qua. Eh no, scusi, clandestini sono la guerra, è un'altra cosa. Io lo dico, io non scusi, faccio politico. La fame non può essere un reato. Viene... Brava Serracchiani, chi ha fame ha diritto di migrare. La fame non può essere un reato. Cioè, non può essere che, siccome sono razzista nato in un posto Cruciani, dove la fame non è un reato. Non riesco ad avere da mangiare, non riesco. Io, se prendo la barca, mi metto lì sul gommone, parto. Se permette, quando arrivo dall'altra parte, almeno che non sia reato, almeno che non mi chiudano in ma lasci perdere il reato, non è importante. Dopodiché devono esserci le condizioni perché queste persone vivano dignitosamente, così come per gli italiani. Su questo siamo tutti d'accordo. Senta. Ma non è che dandogli un calcio in culo lei risolve il problema. Albertini, vieni giù, che sei frocio pure tu. Quando la zanzarina tormenta la mia noce. Questa era l'ultima versione di Gabriele Albertini, che ricordava i tempi in cui sotto Palazzo Marino lui sindaco gli gridavano: Albertini, vieni giù, che sei frocio pure tu. Erano quando lui negò. Bei tempi. No, però scusa, a proposito di ladri, no, visto che parliamo sempre, voi dite sempre che voi, che c'è, lei che Cruciani c'è contribuisce a questa propaganda razzista contro i rom. Ora, adesso io non vorrei tornare su una questione, però la politica ha dato all'Italia 5 miliardi di aiuti. Ora, se noi mettiamo insieme i 160.000 rom che vivono in Italia, nel corso di 30 anni mai avranno rubato 5 miliardi di orologi e di nelle case degli italiani. Quindi, ma che paragone stupido, ma è molto ridicolo. Sono molto più ladri i nostri politici dei rom. Ma questo non c'è, è statistico, proprio è scientificamente dimostrato. Sta dicendo dimostrato una cazzata oppure no? Ma tu che scusa, sei, come dire, il nostro 5 no, miliardi. È una cazzata, ma mi diverte. È divertente, è una ma la noce no. Tranquilla. Vabbè, allora c'è un signore che si chiama Luca Abba. Te lo ricordi Luca Abba? No, ma già tremo. Però, signor Luca Abba è un notav che una volta si è messo sul traliccio, certo. Sul traliccio lì. Pretendeva anche che non facessero nulla. Uno sale su un traliccio davanti a una fabbrica, davanti a un cantiere, male. E uno pretende che la polizia sia: no, prego, scenda. Si porta la merenda. Vabbè, però se sale su un traliccio poco male. No, ma sì, è serio, su un traliccio, tu difendi tutti i peggiori delinquenti, tutti i pregiudicati, delinquenti, rom, tutti. Se sale su un traliccio non fa niente, si fa male da solo. Se mi blocca il treno Roma-Milano, quando devo venire a Milano mi cazzo, però se blocca la rotaia indirettamente... se sale sul traliccio poverino, ma se questo... poi cade dal traliccio non è che facciamo un corteo di solidarietà dicendo che è colpa della polizia, dicendo che è colpa della polizia. Però se uno poverino sale sul traliccio, io tra i signori notav che manifestano i poliziotti sono sempre dalla parte dei poliziotti, anche dubbio, tu sempre, comunque anche quando sparano i lacrimogeni, perché quelli gli rompono i coglioni. Io sono per più TAV, sono più solo la TAV, ma sono fin troppo calmi i poliziotti che stanno lì, cari notav, fin troppo calmi, perché non fanno nulla rispetto a quello che dovrebbero fare. In altri paesi sparerebbero all'altezza uomo. No, eccolo qua. Come no? Cruciani, stasera è scatenato. Se in altri paesi. Se è qualche piccolo lager si potrebbe riaprire. Hai sconvolto Feltri. Amici che siete qui, ma vi rendete... cioè Cruciani è riuscito a sconvolgere il direttore Feltri, che sicuramente non è una mammoletta con i titoli che fa sul giornale. Ma io quando mai faccio i titoli sul giornale? Non li fai più ormai. Da anni che non conti più un cazzo sul giornale. Zero. Mica se no verrei qui a parlare male di Berlusconi. Mica cioè, scemo. Conta solo la Santa Che ormai. La Santa Che è Sallusti. Sallusti. Non nominare il nome della Madonna in vano. Però scusa, è curiosa questa cosa qua. La Santa Che dice di non è, l'altro giorno da noi ha detto che lei sogna un mondo dove a pagare gli alimenti siano le donne, no? A proposito della Laio. Anch'io. Anche tu, questo tutti, beh, tutti noi. Anche lui, tutti, siamo tutti della stessa parte. Però lui non si è mai separato, lo sai? Mai, non si è mai separato perché è un paraculo. Non me lo posso permettere. Ma come? Quanto guadagna lei all'anno? Scusi, io molto più di te. Per questo non c'è dubbio. Ma mica li voglio dare come fa quello là alla corrispondente di Veronica Lario. Quello là è anche un po' signora, mezzo editore di quel giornale, insomma. Sì. Quello là, quello che lei chiama quello là, no, diciamo. È il fratello, sì, no, fratello, cioè, beh, uguale, però, insomma, conta niente il fratello, no. Su, sono Paolo Berlusconi, non mi dica che conta qualcosa, conta solo lui, lui chi? Lui. Paolo. Lui, Paolo, il fratello minore, no. Molto minore, non conta nulla, dai, su, sono Paolo Berlusconi, è lui, scusa, sì, vabbè, ma se chiama, anzi, io lo ringrazio, perché... vabbè, quello è chiaro, se chiama Silvio, guai, però se chiama Silvio, mi mettono in mezzo questi qui, se chiama Silvio, ma c'aveva mica ragione quello là di Campobasso, Randaggi. Randaggio. Però se chiama Silvio, Paolo non è che dice no Silvio io non vorrei fare, non lo so, io non ho mai ascoltato i loro colloqui e tenderei a non però farlo. Torniamo alla Santanchè, sì. Allora la Santanchè ha detto questa cosa qui di non aver mai avuto cioè, di sognare, sì, un mondo dove in realtà lei paga gli alimenti, sì. Però lei qualche vantaggio l'ha avuto dal dagli alimenti, dai vecchi mariti, no? Uno il nome, non lo so, signor Santanchè, vabbè, perché il nome che te ne fai, poi pure là come che te ne, no, fai, è un marchio di fabbrica è diventato, eh, no? Sì, certo, mica vende le scarpe, beh, però vende la sua immagine, cioè che è... vabbè, ma lei è diventata Santanchè perché ha fatto tutto il casino, sì, che sappiamo, sì, no? Perché aveva un cognome, ma preso, voti, a prestito. Ma c'hai i voti secondo te la Santanchè? No, beh, io credo di sì, perché anche nelle elezioni del 2008, se non sbaglio, paura, lei si era candidata con, sì, un partito inesistente, la candidato premier, e ebbe un 2,8%, no, un tempo 2,8%, no, guarda, sui numeri non mi sbaglio, 2,8%. Ai tempi della Prima Repubblica, i repubblicani, per esempio, col 2,8% sono stati 37 anni al governo. Certo. Quindi, tu dici, questo, cioè, no, la, lo dico. Stai dicendo la Santa anche come Spadolini, è una cosa incredibile quella che stai dicendo. Sto parlando dei repubblicani. No, hai una paura tremenda della Santa anche, come, no, che paura. Me lo chiedi pure. Perché? La conosci o no? Me lo domandi. E devo dirle che mi ha ancora di più rattristito, sì, leggere che è rattristito, no? Ho detto una sciocchezza. Eccoci qui 800 24 00 24. Mauro da Genova. Mauro? Sì, pronto? Pronto? Sì, dica. Ok, salve Cruciani. Certo che voi due fate incazzare gli italiani più che il governo. No, gli italiani no, quelli che chiamano ogni tanto. Esageriamo, gli italiani. No, allora, dai. Vada. Niente, volevo dire a Parenzo, sì, che ha detto perché una cosa saggia. Radio insulto. Come? Che ha detto? No, una cosa saggia sui Rom. No, io non ah, voglio una insultare cosa saggia, perché io adoro Parenzo. Ma è uno dei e pochi, di conseguenza però, no. Una specie di panda, Io adoro Parenzo. Bestia. Potete isolare anche questo, io adoro Parenzo, anziché i soliti insulti. Probabilmente sì. No, non le do del cane randaggio come ha fatto. Vabbè, allora non ci piace. Dica. No, riguardo i Rom. Ai Rom, cioè, questo è serio. l'ultimo concerto di De André a Roma, certo, in cui parla dei Rom e spiega un attimino bene tutta la storia dei Rom. Ma certo, di chi sta parlando? Perciò... Non la farò parlare. Una volta che c'è uno che ragiona un attimo e non dice merda, coglione, coglio Cruciani, maledetto. Un ragionamento pacato sui Rom. Tranquillo. Ma io poi mi rompo i coglioni dopo un po'. Mauro, su, dai, qual è la cosa? Chi è? De André? Chi era? Risentitevi un attimo il concerto di Roma, l'ultimo concerto di De André, perché dice una cosa di Rom che è molto simile a quanto dice Parenzo. Ovvero che le banche, diceva che le banche rubano più dei Rom, qual era? Quello diceva Brett. Le posso dire però che è una stronzata questa cosa, ma certo, ma è scontato. Sto dicendo, caro Mauro e caro Davide Parenzo, è più criminale fondare una banca. Vabbè, ma che c'entra? Ma è normale che se uno calcola i soldi che possono rubare, che ne so, in un campo Rom rispetto a quelli che possono essere considerati dei furti delle banche. È semplicemente per dire che quei politici che usano strumentalmente la questione Rom agitata così come si fa con i tori, come fossero il problema di ordine pubblico mondiale, quando sono solo 160 in tutte le città, si sa dove sono 160.000 e sembra che sia il problema dei i Rom. Cioè, ma come i Rom? Scusa, ma ogni tanto. Ma 5 miliardi ad Alitalia avete dato, ladri, in Parlamento è pieno di pregiudicati, no, e ve la prendete con dei Rom che non sapete che ce benissimo la dove stanno. Non è che ce la prendiamo. E tu sei, perché elettoralmente è comodo dire i Rom, ma vogliamo parlare del Rom Verdini, ad esempio? Ma voglio dire, ma tra un Rom che ha rubato due Rolex e il signor Verdini, che adesso sarà sicuramente innocente, ma che ha dei procedimenti penali, questo piccolo particolare. Sì, ma infatti anche i Rom però magari hanno dei procedimenti penali in corso, molti, moltissimi, però sono già colpevoli, mentre su altri nomi non si dice nulla. Poi per ogni tanto Parenzo però mi chiede... a voi piace quelli, perché in giacca e cravatta, tutto elegante, non fa paura, non è sporco che puzza, che viene in modo e dice mangiare e ti ruba. Quell'altro non dice mangiare, ma ti ruba comunque, questo è il punto. Io per questo mi arrabbio. Poi caro Mauro, sai che succede? Che poi Parenzo prima della trasmissione mi chiede: ma come mai Verdini non viene in questa trasmissione? Come non riusciamo a invitare Verdini? Ma sono due anni che gli dici che è un ladro, no, non c'ha nemmeno la sentenza. Non ho detto che è un ladro, ho detto che vorrei fargli delle domande, perché uno che ha fondato una banca, l'hai detto il Verdini Roma, hai detto il Roma Verdini, il Roma Verdini, poi dice come mai non viene il Tegrino, non viene. No, ho detto il Roma Verdini, ho detto che ci si lamenta perché tutti i Rom sono ladri, no? No, carità. Guarda che fra poco abbiamo un grande collegamento. Grazie Mauro, abbiamo capito, abbiamo fatto parlare poco ma abbiamo capito. Alan da Bologna, no, voglio sentire Luigi da Milano. Oh, finalmente, guarda Parenzo, mi hai rotto i coglioni. Io ero in torniamo nella normalità, perché altrimenti mi stavo già abituando. Perché tutta la settimana che spari stronzate. Io tre volte alla settimana devo fare un massaggio a quattro mani e a due bocche in un centro benessere al confino dell'Italia per rilassarmi. Quale centro benessere? Scusi, quale centro benessere? Veramente si ragiona in maniera seria qui. Quello che cita De André, adesso questo qua vuole andare a puttane. Scusa, abbi pazienza. Ognuno ha le sue scelte. No, ma infatti io preferisco lei, quello che mi cita. Dovete sentire il concerto di De André. Lei mi dice, io tre volte a settimana vado in un centro benessere e vado a Mignotte. Invece di ascoltare il concerto di De André, ascoltare, che ne so, qualche discorso di Napolitano che mi sta... Questo è il numero uno, gente normale. Mi costa di benzina, mi costa di massaggio, ma ecco, dopo due ore, mi creda, super rilassato. Se lei non l'ha mai provato, ho provato, però adesso, tempo fa. E due bocche, quattro mani. No, beh, questo quattro mani e due bocche è un po' particolare. Cioè, adesso entriamo in un dettaglio che possiamo anche evitare, però... No, ma sai, adesso in questo periodo dicono che dobbiamo essere un po' più calmi, non dobbiamo parlare di sesso. La gente parla di sesso dietro l'angolo, usciamo da questo posto e c'è gente che parla solo di sesso, manager, industriali, tutti. E poi mi dicono, io so che comunque Parenzo è astinenza senz'altro di sesso, perché parla come uno che non abbiamo mai visto la gnocca da vent'anni. Non ho capito, mi ripeta questo passaggio un po', scusi. Parenzo ha detto... Ma perché devi concentrarti sulle cose? Parenzo, è da vent'anni che non vede una gnocca. No, adesso vent'anni no, perché ha avuto un figlio adesso da poco, dunque almeno quello... Anche il mio amico ha avuto un figlio, mica detto che adesso suo, ma non ho capito, ma lei perché deve venire a frugare sotto le mie lenzuola? Me ne fotte qualcosa di quello che fa lei? Il mio amico ha avuto un figlio, però non è suo, che cazzo vuol dire? Ma adesso... anche io ho avuto dei figli, ma mica detto che sono miei. No, beh, ma io voglio vedere, ma il reparto di psicopatologia. No, no, no, quale reparto? Parezzo, vieni con me che ti credi, ti faccio sfogare. Ti ne avrai grosso come due meloni. Ma uno adesso diventa un simbolo, uno che va a puttare, ma non ho mica capito che roba è. Scusa, uno, ma non è un simbolo, è una persona normale. Uno, un malato, ogni tanto... ma un malato, ma io dico, ci sarà un po' di privacy. Dice uno, questo vuol farsi fare i massaggi dalle prostitute, però il telefono lo dice con orgoglio anche, capito? Diventa un simbolo. No, questa è l'Italia nella quale viviamo. No, io non sono gente... L'hai detto te, io non sono mai andato. Beh, come no, adesso due mani e quale cosa. Due mani a bocca. Ma che vuol dire? Ma a tornare a casa, ma non si vergogna? Beh, ha detto lei che va in Svizzera. Ha detto, ma non che vai... si vergogna? Che chi va in Svizzera a portare i soldi e chi va in Svizzera a farti i massaggi? Che cazzo, e che problema c'è? Non a tutti, tutti. Ma scusi, se lei... andate in Svizzera a portare i soldi, io che cosa no, voglio? No, no, no, non ma dica scusi, queste cose su Fede. No, no, ma scusi, lei tiene famiglia? No. No, e allora spaghi cazzi suoi, giustamente. Ah, però avrà dei parenti, no? Vabbè, ma che c'entra? Io non ho nessuna famiglia, non mi riconosco più nessuno. Ah, ecco, te credo. Si vergognano tutti, ma questo è evidente. No, no, ma che si vergogna? Venga con me, vedi come si vergogna. Ma si vergognano tutti, io mi vergognerei a tornare a casa. Io con le cose che lei dice, ma io mi vergognerei a uscire di casa la mattina. La parcella delle spese che mi fai ricordare, perché io devo aumentare le sedute ascoltandoti. In che senso? Le sedute di che? Di massaggi. Ah, di massaggi. Ma scusi, poi lei in che posto va esattamente? Una piccola domanda. Cioè, lei varca il confine con la Svizzera? Vai con lui, se sei così curioso, vai con lui. Mi pare che sei attratto da questo mondo. Diciamo. Io vado al concerto del figlio di De André e tu vai con questi signori in Svizzera. Guarda che passi che ti sei ridotto per andare al concerto del figlio di André. Per quanto avete questi discorsi? Luigi, io starei con lei tutta la sera, in realtà, in diretta. Ma la portano via con l'ambulanza. Però devo... sì, lo so. Scusi. Però purtroppo dobbiamo salutare. Quando va la prossima volta? Sto tornando, sono appena uscito, sto tornando su, perché ho fatto l'ora che sono collegato. Esattamente, quanto ha pagato? Quanto paga, esatto. Per i suoi servigi? Quanto paga? Vabbè, che ne so, 400, non so. Ah, 400 al mese? No, che da mese? Che adesso, per andare un ma ogni volta che va, sto con... ma non sai nulla. Con le capre? Ma dico 400... Con le capre. Ma non ho capito. Ma che gente schifosa che c'è. Ma lei... No, non ho capito, 400 a botta le costa, 400 no? La seduta che ha fatto. La seduta, 400, giusto? Sì. Ogni quanto lo fa? Una volta a settimana, una volta al mese? Questo volevo capire. 3, 4... Adesso ascoltando il titolo vado che 4. Sto tornando indietro. Ho girato la macchina e torno indietro. Ma 4 volte a settimana? 4 volte a settimana, a 400 euro? Sì. Quanto spende per andare a Mignotte al 400 mese? 400 euro a settimana, ha detto questo. Per andare a... quanto spende al mese? Che ne so, se ascolto Parenzo ci vado 4 volte alla settimana. Ma controlli il conto corrente comunque, perché secondo me tra un po' la banca la chiama. No, non chiamano mica. Non mi mordere il dito, non mi macchiare il mio vestito, e non mi mordere il dito. Aspettate, fermi. Sì? Pronto. Oh, ministro Cancellieri? Buonasera, Luciani, buonasera. Oh, buonasera, grazie, grazie. Ministro, sempre che sì, è sempre, hai capito? Alle 8:30 c'è cazzo da fare di tutte le sì, volte. Sì, alle 8:30 sta sempre a casa. Come sta, ministro? Siamo bene, Luciani, siamo bene. In questo momento io sono in cucina. Sempre in cucina alle 8:30, vabbè. Ma da lei non sta mai al ministero a quest'ora, scuola la giustizia. Ma guardi, va bene, ma però stiamo già a lavorare parecchio, voglio dire, quindi... In questo momento mi sembra normale che una donna di casa... Però lei fa il ministro, cioè non è che... La lentezza dei processi... Ci sono un sacco di cose di cui occuparsi... Ma guardi che abbiamo lavorato, quest'oggi ho fatto pure una conferenza stampa, non è che stiamo lì a dormire, Sì. Abbiamo fatto pure una conferenza stampa. No, sì, una conferenza stampa, avrà fatto pure qualcos'altro. Ma carità, c'è il ministro al telefono... Abbiamo fatto tante cose, comunque, siamo... Sì, abbiamo... Ma che sta cucinando, scusi, ministro, che sta facendo in cucina? Guardi, al di là delle considerazioni che sta facendo... Lei pensi che io preparo le partite della Magica Roma con grande precisione e in maniera responsabile? Ma oggi non gioca la Roma, però. È fissata col calcio e con la Roma, il ministro. Sì, problemi che gioca a Udine. Comunque, Udine, sabato. Ma è venerdì oggi, ministro. Vabbè, mi sto già preparando. Paese che mai usanza che trovi, preparo infatti un piatto tipico delle città in cui a Magica Roma va a giocare. È questo caso utile, senza rinunciare alla leggerezza e quindi a un piatto digeribile ma gustoso, molto gustoso. Sì, perché lei è anche abbastanza, no? Comunque, che sta cucinando allora? Ecco, quest'oggi preparo il frico. Il? Frico. Ah, il frico è un piatto tipico triestino. Mi fa piacere che Parenzo lo conosca. È un piatto strepitoso, certo, leggero, certo, leggero, a base di formaggio montasio, no, fuso. Fuso e patate. È buonissimo il frico. Ma lei fa il ministro della giustizia. Cioè, ma mica è la prova del cuoco, cazzo. Ma anzi, il formaggio va fuso con tutta la crosta. La cosa è imprescindibile. Ma se lei è imprescindibile, la lentezza dei processi è imprescindibile. Delittuoso. Vabbè, ecco. Senta, ma come sta la squadra? Lei che è sempre collegata con la situazione della Roma. Lei è grande tifosa della Roma, no? Vabbè, ci va Garabatto, che non sono tifosa della Roma. Sì, d'accordo. Diciamo che insomma la cosa importante però adesso è arrivare alla partita in forza, quindi bisogna cibarsi. Ma non gioca lei, ministro, scusi. Sì, va bene, però per pura casualità ho mandato il figlio mio al supermercato. Sì, ecco, e naturalmente il frigo si mangia con la polenta, come voi ben sapete, e quindi lui pensa: se te compri un chilo di polenta te fa comodo, ma bello mio, certo che fa comodo. Poi però lui dice che non c'è i soldi per la polenta, allora che facciamo? Che ne so, ho capito, ma lei si deve occupare delle carceri, del sovraffollamento. Ma lei non si preoccupi, faremo con le uova. Pensando solo a mangiare. Ma lei che pensa a mangiare? Scusi, ministro, però concludiamo. Lei è sempre attratta da De Rossi, sì. Dio quanto la tizza De Rossi. De Rossi. Pure Panzaretti non è male. Però veramente De Rossi, con quella sua barba incolta, che sa di peluto e incarnata, sa di sudore contante, di calzini con la muffa. Ma tu gli dai pure retta, dai. Sa di maschio. Mattizza, non c'è niente da fare. Capitano, c'è solo un capitano. Totti si è fatto male, c'è un risentimento, quindi il capitano è diventato Daniele De Rossi. Ma sa tutto lei, vabbè, certo. Grazie ministro, grazie. Senta, a presto, ma non grazie. Vuole sentire piuttosto l'inno da Roma? E così, ma no, ma già l'ha fatto più volte qua. Poi veramente... voglio sentire qualcosa sulle case. Ma lo sai che io avevo una mezza intenzione di presentarmi pure a X Factor, che poi pure Morgan è un bel uomo. Pure Morgan, scusi. Ma guarda che ministro, ti rendi una cosa conto, il ministro della giustizia che... Senta, Cruciani, posso chiedere un'ultima cosa? Mi dica. Senta, ma perché lei non mi invita mai in studio? Beh, guarda, ministro, in realtà da proprio nulla da fare. Senta, con questo telefono che è un po' anonimo, invece se mi chiama in studio magari ne discutiamo in studio, insomma. Ma di che cosa discutiamo? Ogni volta che chiediamo una cosa sulla giustizia cosa risponde col formaggio. Senta, in questo caso abbiamo parlato da Maggi da Roma, di Udinese Roma, che è pur sempre una partita di cartone, una cosa va bene, ministro, grazie. Salute. A presto, buonasera. Ciao. Il professore Paolo Banoli è con noi, buonasera a tutti. Come sta il professore? Mi aspettavo. Non sono professore, sono un ex giornalista investigativo. Ho investigato sulla sanità da 40 anni, non un sanità. Giorno. Sì, però lei è, come dire, il principale sostenitore di una della medicina naturale. Alternativa naturale, d'accordo. Esatto. Io pure sono abbastanza a favore, però c'è una cosa che ancora non ho fatto. Sì. Una cosa non ho fatto, io sono a favore. Sentiamo. Io sono a favore di tutto, le medicine alternative, le medicine quelle non tradizionali, l'alimentazione. Guardi, cerco di tenermi bene senza ingrassare, eccetera. Però io non ho mai bevuto il piscio, come dice lei, non ho mai bevuto l'urina. L'urino è una delle tecniche della medicina. Ma perché naturale? Lei ancora non è la tecnica. Perché lei ancora sostiene questa cosa qui? Ma perché fin dagli albori della civiltà umana questa tecnica è conosciuta, è nota, è praticata. Ma lei la pratica anche adesso? L'altro giorno l'ho fatto, cioè, perché avevo bisogno, avevo un po' di raucedine alla... Ho fatto i miei gargarismi. Ma i gargarismi? Cioè, io voglio dire, scusi, questo non lo sapevo. Viene presentato come professore. Io dico, ma l'ha chiamato uno della Bocconi, uno della Luis, che ne so io. E chiama uno che beve il piscio, lo chiama professore. Cioè, ti pare giusto che uno alla sera mangi polente e formaggi così stracotti, per cui dopo deve anche andare dal dottore perché sta male o gli viene l'influenza? No, a me 73 anni, meglio bere il piscio che mangiare la polenta. Ma certo, ma quando hai bisogno, sì. Ma non ti può dire certo. Sai cosa ho mangiato questa sera? Non Parenzo. Voglio sapere. Non semplice, sapere. Un brodo di tarassaco. Non voglio sapere. Per pulire e mantenere pulito il fegato in questo momento di transizione. Cos'è il brodo di tarassaco? Non voglio sapere. È un'erba che si trova nei campi. Come nei campi? Nei campi. Il piscialetto, per fare... tanto per... Come piscialetto? Si chiama anche piscialetto. Anche il tristo ti piscia questa erba, così. Le prende e raccoglie. Prima no, piscia sopra e poi raccoglie. È diuretico anche, allora la si usa. Ma non ho capito, cos'è questa ricetta? Una ricetta semplice, una minestra di questa verdura. La puoi comprare in qualsiasi. No, però scusi, lei va nei campi, no? Lei va nei campi. No, io non vado nei campi. Qualcuno perché non ho il tempo. No, qualcun altro prende la cosa. Ma si magari compra, anche si compra grondante. La verdura che sì. Si chiama tarassaco, tarassaco e la si fa in minestra. In minestra. Stasera mi sono mangiato una boccia di minestra. Ma, meglio via. Quello dell'urina, diciamo. Ma c'è l'urina, un progresso. No, però detto, la si usa quando? È necessario. Certo. Io l'ho utilizzata per 3 anni e mezzo consecutivamente tutti i giorni. Però adesso ci ha rifatto. Un bicchiere al giorno. Adesso è tornato con i gargarini. Ma spieghi questa cosa di gargarismo, che è interessante. Ma, è semplice. Quando c'è un mal di gola, semplice, no. O avete qualche problema di gola, sì, di in questo periodo comincia a iniziare. Ed è molto facile in questo periodo comunque, di transizione termica. Certo, e non c'entrano i virus, come vi racconto, no, tutte balle. Perché in realtà è l'escursione termica che influisce sull'organismo, sì. E se l'organismo non è preparato, questo infatti si chiama influenza, ma da che cosa? Sì. Dalla termica e dalla ionizzazione atmosferica. Vabbè, i virus complesso. Non c'entrano un cazzo. Questo può essere. Niente. Eccola. Sempre. Tanto per sempre essere. La zanzara da 24 Confindustria, sì. Siamo sempre. Vorrei capire. Però lei suggerisce. Però lei suggerisce invece io di andare in farmacia a prendere un. Se avete il mal di gola potete comprare 100 grammi a 3 euro. No, però adesso non facciamo pubblicità. No, non è una. Di no, non diciamo fior di zolfo che fior è zolfo purificato dai vulcani. Vabbè, ne prendete una piccola puntina quanto di zolfo, metà dell'unghia del mignolo insieme a un po' di miele e vi dico dopo 2 giorni il mal di gola vabbè, passa sia ai bambini che agli anziani. Vabbè, questo qua vabbè, d'accordo professore, però la questione io avevo un problema un po' più profondo ecco, che era un'infiammazione alla trachea che ha fatto? Ho preso freddo su una mangiata un po' più abbondante a mezzogiorno, sono uscito bello bandazzoso con le maniche corte e mi sono un po' raffreddato. Anziché andare in farmacia a prendere una pastiglietta, mi sono preso il mio diciamo 3/4 di bicchiere, sì? Mi sono fatto i miei gargarismi. No, aspetti, con la prima mia urina però bicchiere non era vuoto. Ah, lei al mattino, ripete, no, perché è importante. La seconda urina, non la prima, ma la seconda è quella urina. Che si può bere, si può utilizzare per fare si un può sacco in che di senso, cose. Scusi. Mi sono fatto i gargarismi. Ma cosa dici, si può? La prima non si può, la seconda urina la prima contiene molte sostanze perché durante la notte i reni mentre la seconda è già più pulita e si può utilizzare tranquillamente. E lei si beve mezzo bicchiere e fa? Io l'ho in parte bevuta, in parte fatto gargarismi. Il giorno dopo non avevo più il problema alla trachea. Aveva altri problemi, ma insomma non quello, diciamo. Trachea tutto a posto, il resto... Questo lo dici tu. Vabbè. Però il professor Vanoli dice che l'urinoterapia può essere utilizzata per questa cosa. È una tecnica utile che può essere utilizzata. Monti, cioè, professore, non Vanoli, con tutto il rispetto. Non sono professore, te l'ho già detto. Chiamami però, Paolo, però io, scusi, Jean-Paul. Il mio nome vero è Jean-Paul. Come Jean-Paul? Je suis français. Ah, vous êtes français? Francese. Oui. Ah, è francese. J'ai de nationalité en tout cas. Ma Vanoli è il cognome. Vanoli è un nom che vient de l'Olanda. Che viene dall'Olanda. Vanoli. Van Oli, bello. Questo c'è stappia per culo secondo me. No, cioè, no, vabbè, d'accordo. Siamo qui. Il mio nome è Jean-Paul Van Oli. Benissimo, Cristiano da Modena, 800 24 00 24. Abbiamo dato qualche consiglio, piccolo consiglio. Io però ho delle difficoltà a fare dei gargarismi col piscio, lo dico la verità. Cioè, faccio se uno si ama lo fa, se uno non si ama si fa schifo. No, però adesso questa è una massa, è un po' riduttivo, detto così. Ragazzi, la realtà è questa, imparate da Le persone che sono qui, allora che ci assistono in diretta, a evitare non di per chi è a casa, portate. quanti di voi si amano? Quanti di voi si amano? E quindi berrebbero l'urina? Quanti, alzate le mani per cortesia? Probabilmente nessuno. Solo una si ama, hai capito? Su 100 e 200 persone che sono qui, una sola si ama. Ma non ha importanza. No. A me interessa il concetto. Poi dopo ognuno fa le scelte che vuole. Ah, non c'è dubbio. Si può guarire da problemi. Esiste. Si fa... Anche se i nostri dittatori, i politici ce lo impongono di non essere. Senta, però leader. C'era un signore. Un signore. Ma dice che i politici sono dittatori. Vabbè, sì, come il dittatore del sistema attuale di imposizione di tutti i tipi. Persino nella salute, i vaccini te li propongono a 2 mesi e sono il peggior atto fisiologicamente parlando, sì, criminale che si possa fare su un essere vivente. Ma lei è stato cacciato da Grillo, dai Grillini, perché lei ha frequentato. Certamente. Lì, no? L'hanno mandata via, no? Sì, perché quando si è cominciato a voler parlare di sanità, beh, i signori medici che facevano parte della commissione hanno fatto di tutto per mandarmi via, però, e io me ne sono andato volentieri. Professore, se però non si è capace di discutere democraticamente di un d'accordo problema fondamentale, però lei sostiene quella anche la salute, per me non interessa. Però lei, andate per la vostra strada. Professor Panoli, lei sostiene. E dai col professore. Vabbè, Jean così Paul. Lo dico, Jean Paul. Professor Jean Paul, anche dice, perché i titoli fanno sorridere, sì, perché c'è lei gente che ha dei titoloni così e non capisce niente, fa di quelle cazzate madornali. Questo è vero, però io le dico una cosa, lei sostiene anche che i vaccini possono portare all'omosessualità. Adesso, anche però, questo, ma certo, professore, no, come allora, anche questo, ti questo spiego il perché. No, ma lei dice anche che i gay sono, scusate, allora devo spiegarvi. Su. Allora, il vaccino adesso arriverà una, a dire che sicura i porri con le mestruazioni, come diceva un pazzo che ci ha chiamato l'altra volta. Lei intanto parli pure. Allora, stavo dicendo che i vaccini sono delle sostanze tossico-nocive, eterologhe, estranee al corpo umano, sì, che vengono introdotte nell'organismo, e non certamente fanno bene, ma uno, anzi creano delle reazioni, vabbè, anche gravi. Però che c'entra i gay con i vaccini? Professore? Perché c'è un problema ormonale che avviene quando tu introduci delle sostanze tossico-nocive, lo ripeto un'altra volta, ma uno, anche gli ormoni quando cambiano. Uno, quando uno è e frocio, quando non la è per personalità un si sta affermando dal bambino da due mesi ai sei anni comincia a formarsi la personalità, se c'è un'interferenza ormonale è chiaro che questa subisce dei danni o delle alterazioni. Non voglio dire che l'omosessualità, dunque, si può guarire dall'omosessualità volendo, non lo so, per ora io non mi sono bevendo occupato l'urina, della guarigione, mi sono occupato della spiegazione del meccanismo. Vabbè. E l'ho scritto ed è pubblicato nel sito. Lei ha detto anche che i gay sono malati, lei ha detto che i gay sono malati, per me sì, ma no, sono professore, certamente è una malattia. Ma Jean Paul, su, come beh, certamente una malattia, andiamo su a vedere chimicamente, biologicamente, cosa succede? Scusi. Vogliamo fare delle indagini serie a livello, l'indagine, a livello l'indagine seria la farei su chi beve il piscio, francamente. Beh, le indagini serie, le uniche indagini serie che io farei è su quello. Vuoi però il sangue? Toh, prendilo, fallo analizzare. Ma come, ma che c'entra? 73 anni, poi mi dici gli altri 73 anni come stanno? Cioè, secondo lei è tutto a posto? È tutto lui perfetto? Sta al top, dice. È al top, dice lei. Certo. Vabbè, Cristiano da Modena, lei si dovrebbe toccare quando dice queste cose. Ma non ho bisogno, c'ho due coglioni così, non ho bisogno di toccarmeli. Cristiano, no, toccare cioè, il ferro. Io ho già qui i miei coglioni. Cristiano da Modena, Cristiano, allora che stava dicendo? Cristiano, sempre, comunque, sempre sul filo dell'allusione questa trasmissione. No, no, io sono diretto. No, Cristiano se da parliamo Modena di sesso, no, dico, mi dico una scopata al giorno, togli il medico di torno, invece quanti lo fanno? Perché lei lo fa. Adesso non più. Beh, perché capito, ho un problema in casa tutto lì. Cristiano da Modena, Cristiano, non approfondiamo. Cristiano, sono qua. Dica. Prego, oh, prego. No, volevo parlare un attimo prima. Dai, intanto buonasera. Volevo un po' rispondere prima a Parenzo sul fatto che paragonava praticamente i leghisti ai come si dice? Ai no, sì. Era una provocazione. Non eh è che li paragonavo. Io ho provato a immaginare delle analogie. Ad esempio, prima mi suggeriva un amico. Vabbè, insomma, che vuole dire, Cristiano? Siamo Davide Romano mi suggeriva che premetto che io non sono un leghista. No, senta pure quest'altra, senta quest'altra. No, aspetti, ma questa è un'analogia, non mi, sarebbe stupido che me ne appropriassi. Dai, forza, dillo. Diciamo, Belsito ruba i diamanti, se li metteva in tasca, e i rom li mettono nei denti. E questa è un'altra, capito, analogia che c'è, che si può, sì, trovare, capito? Sì, similitudini. Possiamo sempre parlare di rom, ci sono i ladri anche italiani, eh. Oh. Cristiano, allora vedi che alle volte l'urina bene il piscio ti dà una open mind, no? Ti rende un po'. Cristiano, allora? Se pensate ai signori giudici concetto, che là, mai hanno fatto un'indagine sulle banche seria, vabbè, se non soprattutto sulla sovranità monetaria, no, vabbè, di allora, cui non si parla Cristiano, mai, allora? Che ci hanno rubato e depauperato. Oh, Cristiano, allora? E il professor Banoli? Sovranità, Jean Paul, sovranità monetaria stavo parlando. Claro, vabbè, allora vai, posso parlare, vai Cristiano, vai, chiudi. Ma ho capito, però io posso capire che è il vostro scopo quello di istigare un po', di far della cagnara, ma non si può dire per radio delle cose di quel tipo lì, ragazzi. Ma come si cioè può dire delle cose di quel tipo lì? Cioè che cioè che ma lei che parli, rispondo, no, io mica lei, cioè che i leghisti sono come i rom? Non ho detto questo. No, tu Parenzo hai detto quello, ti vai a sentire la registrazione. Ho detto analogie. Ho detto ci sono delle similitudini. L'hai detto, dai, non ti tirare indietro. L'hai detto. Certo, analogie, analogie, ho trovato le analogie. Dobbiamo chiudere, ci sentiamo lunedì, forse. No, ci saremo sicuramente, forse. 18:30. Viva Manoli!